A parte vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma ce vado io, ma ce non avete tu, mai lavorato in vita vostra, andate a rompere gli uni e quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cha cha cha. Caro Parenzo, fosse confermato, perché naturalmente noi non crediamo mai alle prime versioni, quelle che escono, non crediamo mai. Fosse vero che un assessore, ormai ex assessore alla cultura, PDL. Pensate, alla cultura, PDL, sì, diciamolo, PDL. Forse anche Forza Italia possiamo dire, credo, no? Non è passato con Alfano. Un assessore del PDL, ora Forza Italia, alla regione Abruzzo, si è fatto firmare dalla sua segretaria un contratto in cui lei veniva obbligata a fare sesso una volta a settimana per 3.000 euro al mese, 36.000 euro all'anno. Alla fine sì, a parte lo scandalo facile, questo è un porco, un maiale, e le femministe, il femminile, tutte queste stronzate qui, al di là di questo è un coglione, diciamo la verità, perché tu puoi anche ricattare tu sessualmente. Tu dici che è troppo? Dai, uno può anche ma tu ne fai una questione di prezzo o di no, etica? No, a parte che è troppo, mi sembra 700. Ah, no, questo volevo capire da lei, signor Cruciale. No, perché se tu vai a calcolare poi una volta a settimana 36.000 euro lordi o netti? No, lascia perdere, adesso questo non lo so, mettiamo 36.000 che fanno 3.000 al mese, sono 700 euro, alla fine sono poco più di 700 euro a prestazione sessuale, amico mio. Tantino, Beh, lo so, chiedo a lei che lei è più del settore. Però adesso già ci attaccheranno per queste nostre disquisizioni su questo argomento, già ci attaccheranno dicendo... A me pare gravissimo comunque, sì, ma scontato. Vabbè, è scontato da dire, sì, è molto scontato, sì, è scontato, è gravissimo. Però... Io dico, aggiungo un'altra cosa, questo De Fanis, questo bandito, perché tale sembra, no? Tale sembra un bandito, uno che festeggiava a champagne, non so che cosa, pagato dalla regione, ecco, pare si sia fatto dare delle tangenti per altre cose, vabbè, ma al di là di questo De Fanis, ma quale contratto firmi? Quale contratto? La vuoi obbligare, e sei un porco, un maiale, a fare sesso con te perché la tua segretaria, perché la governi, no? Perché la obblighi, perché la ricatti, poi bisogna verificare. Ma che c'è bisogno di firmare un contratto? Cioè di appendersi al collo in questo modo? Dai, su! Scusa. Cioè, scusate, ma se tu volessi ricattare qualcuno dicendo o fai sesso con me o non ti faccio un contratto, ma non è che scrivi un contratto, no, dai, scrivo su. Una volta a settimana al prezzo di 700 euro, allora stabiliamo che dai, dai, anche Mughini è d'accordo, su, si indigna. Ma scusa, vogliamo ricordare, perché vabbè, adesso lo ricorderemo, vogliamo ricordare la performance fascistoide, diciamo la verità, del signor Pennacchi ieri sera, perché molti sorvolano su. No. Beh, scusa, ma lui lo rivendica. Il fascismo ha fatto cose buone. Non vogliamo dire che lo scrittore così detto stimato, così così ammirato, no? Dice premio strega. Che il fascismo ha fatto delle cose ottime in questo paese, lo vogliamo dire sì o no? Negli anni 30 siamo riusciti a diventare da un paese poverissimo un paese industriale. Ma c'era, esatto, il fascismo, c'era. E poi quello si è rovinato tutto con le guerre. Ma negli anni 50 e 60 venivamo c'era il fascismo. E quello però, quelli modernizzarono il paese. Poi il Parlamento non contava nulla. Ma c'era la dittatura. Studiate un po', sì, però fecero le bonifiche e le industrializzazioni del paese. Certo, e lo stato sociale. Tante fatte apologie di fascismo. Negli anni 30 sì, si sono fatte anche cose positive. Vergogna. Che cose positive c'erano? Le ho fatte anche quelle negative. Allora, diciamo la verità, fosse stato un altro, se lo sarebbero mangiato per queste cose qui, sì, un altro se lo sarebbero mangiato. Pennacchi può dire di tutto, che il fascismo ha fatto le bonifiche e altre cose, dai. La segretaria che fa bailando ricaccia. Lo splendido duello ieri sera tra Giampiero Mughini e Chiave Gatto, quello dei forconi. Dove? Ah, da signor Paragone, sì, sì, no, mi l'hanno segnalato, sì. Dall'immenso Paragone. Senti, Chiave segnalato. Gatto che dice: parli solo di Juve, lui analfabeta. Spettacolo. Ma signor Mughini, volevo dire che noi ci siamo anche rotti le palle, come ha usato anche lui, lei i termini, dei giornalisti che parlano tutto il giorno di Juventus e poi alla sera ci vengono a spiegare come funzionano le cose, chiaro? Ecco, lei è un povero analfabeta. A noi le tasse. Lei è un povero analfabeta. Per piacere. Mi lasci finire. Lei è un povero analfabeta. Le tasse le vogliamo pagare per i poli. Stia zitto un attimo. Ancora Chiave Gatto Mughini. Mio giardino. Noi le tasse, buffone. Allora. Noi le tasse. Basta, basta. Allora, per piacere. Noi le tasse le vogliamo pagare per i poliziotti che proteggono la gente, non per i poliziotti che fanno la scorta ai deputati per andare a puttane, a trans o a fare la spesa. Ha capito? Allora. Impari. Mughini. Il poveruomo col quale ho polemizzato non sa neppure di che cosa sta parlando. Io chiacchiero della Juve quando mi chiamano a farlo e poi faccio da 40 anni il giornalista, ho scritto più libri di quanti lui ne abbia in casa. Pierluigi, io sono molto leale. Se ho di fronte un cretino, penso che sia un cretino. Se ho di fronte una persona intelligente, penso che sia una persona intelligente. Vai avanti tu che io rimango. E intanto il professor Rinaldi. Ho scritto più libri. Ah, spettacolare. Il professor Rinaldi, quello anti-euro, dice sì, no, a Mughini: basta, fategli il test prima di parlare. Neanche si rende basta, conto di quello anti-euro. Che dice. Basta con questi anti-euro. Fermo. A Mughini niente. Il Valium perché ha la pupilla dilatata. Fategli il test prima. Sostanzialmente dice il professor Rinaldi, quello anti-euro, che Mughini è un mezzo drogato. Dai, Giampiero, reagisci. Vabbè, abbiamo un ospite. Però prima io sono veramente incazzato come una iena, no, per questa vicenda del killer Evaso. Lo sapevo, immaginavo. No, sono incazzato come una iena perché noi vogliamo mandare fuori dal carcere, un sacco di gente col decreto svuota carceri, mentre il nostro sistema giudiziario non si rende nemmeno conto che quello è un serial killer e non un semplice rapinatore. Il direttore del carcere di Marassi, del carcere di Genova, che per carità c'entra poco perché c'entrano i giudici di sorveglianza, il direttore del carcere di Marassi, che si chiama Mazzeo, dice: non sapevamo che fosse il killer seriale. Ma come non sapevi? Che c'entra col decreto? Sentiamo Mazzeo. Il nostro fascicolo inizia nel 2006. No, non vengono riportati fatti che risalgono, non so quanti, gli anni 80, mi diceva lei? Gli anni 80. E quindi? Quindi voi non sapevate che fosse stato nel suo passato un killer seriale? No. Cioè, ma tu ti rendi conto o no? Uno che ha sfasciato la testa di una persona con una pietra. È chiaro con che una è un errore madornale. Stai calmo. Ti stai guadagnando un posto nella Lega, ti stai guadagnando. Ma che c'entra? O in qualche partito di questi qui. Stai guadagnando un posto. Vabbè, allora liberiamo tutti, facciamo uscire ma tutti dal carcere. Ti stai guadagnando un posto. Ma che c'entra il posto? Senti la Giammanco che dice: il killer fuori e Berlusconi non può andare. Eccola. La Giammanco. Ah, quella di Forza e Berlusconi Italia. Non può andare a Bruxelles al Partito Popolare per Europeo. Forza. Ma che cazzo c'entra Giammanco? Che dai, c'entra? Su. È follia pura. Un criminale che già è stato condannato, credo, per 3 omicidi, quindi un pluriomicida, un serial killer, viene fatto uscire per buona condotta e che poi chiaramente non rientra. Mentre un leader che dal 94 esiste in Italia come leader del centrodestra, riconosciuto da milioni e milioni di italiani, per allontanarsi 12 ore e andare al summit del PPE, a lui non è concesso. Eccoci qui, 800 24 00 24, è con noi Gianluca Pini, deputato della Lega Nord. Buonasera. Ciao. Eccoci qua. Buonasera. Allora, voglio subito chiederti una cosa, Gianluca. Gabriele, perché è così giù? È un po' depresso, Pini? No, solo mal di gola. Niente, allora, Pini, voglio subito chiedere una cosa. Ma è normale che vengano rimossi i responsabili del centro di accoglienza di Lampedusa per quel filmato che abbiamo visto? E per esempio, io lo dico chiaro qua, Parenzo, non alla fine è il ministro che si deve dimettere. Perché se non sa quello ecco che succede. Scivolata. No, se non sa quello che succede in un centro, che c'entrano quelli là? Quelli con le risorse che sono date, con i mezzi che hanno, fanno il loro dovere. Non mi sembra niente di eccezionale. Pini, allora, lei che pensa? Guarda, la vergogna vera è che c'è un ministro che dice di lavorare per l'integrazione in questo paese, da quando c'è lei in realtà le cose sono assolutamente peggiorate. Questa è la fotografia plastica della sua incapacità, quindi fai bene a dire che se c'è una persona che si deve dimettere su quel piano lì è proprio il ministro. Cioè la Chieng, io parlavo di Alfano in realtà, perché lui è responsabile del centro. Io parlo prima di tutto di chi si è messo sul petto la medaglia dell'integrazione ad ogni costo. E l'integrazione non riesce assolutamente a farla, non riesce neanche a gestire quelli che sono i centri di prima accoglienza, i centri in qualche modo che dovrebbero, però non è responsabile lei, dovrebbero gestire un altro, disastro che è stato creato proprio, come abbiamo già parlato tempo fa l'ultima volta che sono stato ospite da voi, no? Cioè il fatto di dire, di mandare un segnale sbagliatissimo all'esterno che in questo paese si arriva tranquillamente, serenamente, salendo sulle carrette gestite dalla mafia. Un paese serio, un paese civile, a parte non avere un ministro incapace come la Chieng, e magari anche discutere sulla efficienza del ministro Alfano, su questo ti do ragione. Un paese serio e civile fa quello che facevamo noi quando eravamo al governo, cioè gli sbarchi li impedivano perché li fermavano. Però scusa Gianluca, io ti sommessamente dipende dal Ministero degli Interni il centro di detenzione di Lampedusa. Sommessamente ricordiamo da Roma, dice non alla Padania, ricordi alla Padania. Sommessamente da Roma, qui da Roma ladrona, ricordiamo che le competenze di gestione sono del Ministero degli Interni, se proprio si deve trovare qualcuno. Sì, ma vedi, non la negra, lo diciamo con rispetto, da Roma. Allora, forse te ascolti. Non è che appena vedete un negro, subito è colpa sua. Fai rispondere. No, perché appena vedono un negro, subito è colpa sua, capito? Per la legge. Fai rispondere o no? Ma sei isterico, cazzo. Senti, allora, io non ho negato il fatto che effettivamente ci possono essere delle carenze da parte del ministro Alfano. Fra l'altro noi siamo in opposizione, lui in maggioranza, quindi se ha delle responsabilità ben venga che sia un segnale per mandare a casa questo governo. Quello che io dico è che politicamente, proprio da un punto di vista di responsabilità politica, c'è qualcuno che in questo paese ha voluto forzatamente dare un segnale assoluto di integrazione. Cioè non controllava i centri, non controllava i centri, siccome lei è una paladina di integrazione, vuol dire doveva andare lì a controllare come venivano trattate le persone? Assolutamente. Se si prende in carico il fatto di dire tutto ciò che è integrazione e immigrazione lo gestisco io. Allora bada nei centri a vedere come sono trattate le persone che arrivano. Sì, assolutamente. Allora, e allora non ti sembra, Pini, se uno si compra un paio di mutande non si deve dimettere la Verdi, non si deve dimettere la segretaria, no, ma il presidente della regione Piemonte, e chiedo scusa del paragone. Dice che ti devi dimettere da giornalista se lo fai in maniera cialtronesca come te. Del paragone. Però io dico una cosa, secondo Pini si deve dimettere Cota, sì o no, per le mutande, per i 40 euro e per altre spese? No. No, anzitutto io, quella lì è una roba abbastanza singolare, adesso lui si difenderà. Quando a noi sono successe queste cose assolutamente spiacevoli e abbastanza imbarazzanti, nella scorsa legislatura in Regione Lombardia, ricordo che tutti quelli che avevano in carico questi problemi qui non sono stati ricandidati. Se verrà, ma non penso, dimostrata la colpevolezza vera, non solo a parole o attraverso... Le mutande sono state comprate, Sì, ho capito, però ripeto, io non me la sento di colpevolizzare un presidente di una regione che in due anni ha risparmiato, eccetera, eccetera. No, non lascia stare i risparmi. In due anni gli vengono contestate spese per un equivalente di meno di 1000 euro al mese, spese di rappresentanza. Se in queste spese di rappresentanza, che sono 25.000 euro, che sono ha messo dentro cose che non dovevano essere messe. Perfetto, allora le ridà, però io voglio dire, non è che come ha fatto qualcun altro che conosciamo. Cioè, secondo te cosa può essere successo? Centinaia di migliaia facendo finta. Sì, ho capito, Gianluca, secondo te cosa può essere successo? Può essere successo che lui ha comprato delle cose in un viaggio e ha messo gli scontrini e li ha dati alla segretaria? Ti ripeto, per quello che conosco io, Roberto Cota, per me è una persona onesta, fino a prova contraria. Per quello che lo conosco io, mi sembra molto più scandaloso che ci sia qualcuno che si candida a governare il paese a capo del primo partito di questo paese, cioè Renzi, sul quale viene nascosto che lui sia subito una condanna da parte della Corte dei Conti. Conti per danno erariale. Cioè, più scandaloso, scandaloso Renzi. Però sui 40 euro di cotta si sta cercando di creare un polverone tale per cui deve essere costretto alle dimissioni. Un attimo solo che c'è il traffico, poi torno subito, resta lì. Allora, siamo con Gianluca Pini, deputato della Lega Nord. Ti chiedo, Gianluca, ma è così scandaloso poi quel video che abbiamo visto di Lampedusa, oppure è semplicemente quello che potevano fare gli operatori? Guarda, io ti dico, io non ho visto il video, non perché sono avulso da quello che è la realtà, ma semplicemente perché in questi giorni eravamo impegnatissimi a capire porcate, sì, c'è la legge di stabilità dove sono state infilate una serie di marchette di porcate. Questo non c'è indicibili, dubbio. Indicibili veramente, no? Di nuovi forestali, 2 milioni di euro per la promozione dei ristoranti del mezzogiorno nel mondo, delle robe mai viste veramente, sì, anche ai tempi della Prima Repubblica. Questa ragione. Quindi io non ho visto il video, ho visto un po' di foto. Vabbè, però sai la storia la sai. Sì, la storia. Ma la è so. Così scandaloso pulire con l'antiscabbia all'aperto? Non è scandaloso fare quello, è un trattamento sanitario che deve essere assolutamente anche una misura urgente nel momento in cui nel loro interesse, nel loro interesse. Quello che secondo me dà fastidio e deve dar fastidio a qualsiasi persona, a prescindere da come si la pensi, che lo si faccia davanti ad altre persone, voglio dire, anche chi è in carcere nel momento in cui deve essere curato viene portato in uno stanzino, viene fatto. Quello che forse fa più schifo, sai qual è? Che con tutti i soldi che vengono dati, dietro richiesta sempre della ministra Kyenge, per gestire l'emergenza immigrazione, tutti i soldi che sono stati mandati a Lampedusa, in quel centro lì non ci sia neanche uno stanzino dove far passare le persone e fargli fare quelli rimossi, medica. Sì, ho capito, quelli rimossi sono un capro espiatorio, secondo te? Guarda, non ti ripeto, io non sono abituato a parlare di cose che non conosco nel dettaglio. Secondo me però sì, perché loro probabilmente operano, ripeto, in maniera anche protocollare rispetto a quelli che sono i protocolli medici per cercare di evitare contagi, ma operano in una situazione emergenziale perché qualcuno non gli dà gli strumenti. Ma sono davvero trattati male quelli là che sono accolti a Lampedusa, secondo te, oppure sono trattati? Io sono stato a Lampedusa anni fa, mi sembra nel 2007, quando c'era un'emergenza, ma non di questo tipo. Cioè, i tuoi colleghi dicono che comunque hanno vitto, alloggio, eccetera, cioè non sono alla fine trattati male. Vitto, alloggio, fra l'altro, a me fa anche girare un po' le scatole quando sento dire che si lamentano perché sono stati un giorno senza che gli abbiano dato le sigarette. Cioè, io sta gente qui che dice ste robe, che sono sempre tutti che vengono da Shell o dal PD, cioè li vorrei mandare in mezzo a chi ha perso il lavoro e poi fargli fare due chiacchiere con questi signori qua. Cioè, allora, trattiamo meglio quelli che arrivano? Ci vuole sempre un po' di equilibrio, un po' di buon senso. È chiaro che tu le persone sono persone e le devi trattare con il massimo rispetto per la dignità delle persone, ma da qui alle esagerazioni, agli specialisti dell'indignazione, della carità. E questa hai ragione, però la disinfestazione, diciamo la verità, è nell'interesse di quelle persone lì? Assolutamente sì. Parenzo, hai capito? La disinfestazione. Sì. Non è la disinfestazione, cioè, Le posso ricordare che stiamo parlando di persone all'interno del centro. Stiamo parlando di esseri umani. Parenzo, se lo ricorda lei, anche se hanno il colore un po' scuro della pelle, mi dispiace per lui, però all'interno di una struttura dove ci sono migliaia di persone che arrivano da posti dove non si conoscono esattamente quali sono le condizioni di salute, la prima cosa da fare, e questo te lo può dire chiunque che sia di destra, si prende, di sinistra, si spoglia, gli si fa una doccia con la pompa in pubblico, devono essere prese delle precauzioni tali per cui quelle persone e anche gli altri che operano non vengono a contatto con delle malattie. Ma perché lei quando ha i pidocchi si fa fare la doccia così? Ma lei avrà mai avuto i pidocchi una volta? Io li ho avuti. Lei quando ha avuto i pidocchi una volta l'avrà avuto all'asilo? Mai, neanche no, all'asilo, i pidocchi. No, mai avuto. Pini non ha mai avuto i pidocchi. Non li ho avuti i pidocchi. Se ce li hai avuti, mi dispiace per io te. Io ho avuto i pidocchi. Evidentemente mi lavavo Pini, un po' di più, non lo so. Ma io posso aggiungere una cosa in più? No, fai se solo non danni. C'era. Fai no, solo ma danni. Che faccio solo se danni? In più, allora, sei pronto a candidarti nel collegio di Bergamo? Ma smettila con queste Cruciani. Almeno uno che pensa liberamente. Allora, da Roma alla Padania, vota Cruciani. A Bergamo. Allora, il terrone rinnegato. Zitto, Roma, terrone sarai tu. Allora, aspetta un attimo. Cono Galipò, che è amministratore delegato della cooperativa che è stata poi cacciata, dice che fare la disinfestazione, chiamiamola così per semplificare, è brutto. Ma chi semplificare? Ho capito. Persone, è non sono topi. I topi, oddio, c'è la disinfestazione per i topi. La non disinfestazione, per le persone. Vabbè, chiamiamola così per semplificare. Non voglio offendere nessuno. La si fa all'aperto. Bergamo 1, la fanno a Cruciani. La fanno all'aperto, ha detto. Perché altrimenti, se la facessero in un, nell'unico container che hanno, se la facessero nell'unico. Tu stai a leggere le persone che conoscono le cose. Se la facessero nell'unico container che hanno, infetterebbero, no, i locali e poi nessuno ci potrebbe entrare. Dunque sono l'hanno strutture fatto che vanno messe a norma, infatti. Ho capito, ma chi è responsabile? Vero. Questi qua che la gestivano oppure i ministri responsabili della integrazione dell'immigrazione degli interni? L'integrazione che c'è da sono anni che dai, c'è quel su centro di permanenza, non sapete niente. Quando Maroni era ministro degli interni, dove erano? Quel centro risponda lì quando su questo, è nato risponda. Quando? Con la Chienge o quando c'era ancora Maroni vero, e prima ancora Napolitano e la turco Napolitano? Perché dire delle stupidaggini, tu sei un professionista, però almeno con un minimo di quando di è nato quel centro quando, di permanenza quando Maroni, temporanea Parenzo, quando è nato fermati un secondo Pini. Quando Maroni era ministro dell'interno quel centro lì funzionava perché la dimensione di quel centro lì era adeguata agli sbarchi minimi che avvenivano perché noi gli sbarchi li fermavamo prima, allora quel centro funzionava come un orologio per quelli che sfuggivano ai controlli delle coste libiche. Era una spa. Chiudiamo su un'altra cosa. Pini, secondo lei il volo della Boldrini è giustificato oppure una vergogna, velocemente? Una vergogna. Perché una vergogna? Una vergogna perché è l'unico presidente di una Camera o di un Senato di tutto il mondo che si ha preteso di essere. Fra l'altro, la cosa, cioè, che questo veramente. Lì sarebbe interessante che qualche procura indagasse. Uno dice: sono stato ospite del presidente del Consiglio, ma il presidente del Consiglio lo paghiamo noi. La presidenza del Consiglio comunque funziona con soldi pagati dalle tasse. Cioè, cosa vuol dire? Quanta gente si è portata? Mi vuole dire che gli alberghi se li ha pagati lei laggiù? No, negli alberghi non c'è stata una dormitina. Non c'è stata una. Hanno dormito in aereo. Bene. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ormai è tutto degradato ormai. Eccoci qui la Zanzara 800 24 00 24. Caro Parezzo, stavo parlando, sono arrivato di tutta fretta qui, stavo parlando con l'avvocato dell'assessore in Abruzzo che agli arresti, il quale diceva smentiva assolutamente l'esistenza di questo contratto, smentiva totalmente l'esistenza di questo stracciato dalla signorina. Ma come si fa? Allora, se ha fatto questo contratto è un coglione l'assessore, diciamo la verità. Come si fa a fare un contratto in cui dici che vuoi delle prestazioni sessuali in cambio di 36.000 euro l'anno o 3.000 euro al mese? Ma sei un coglione. Regolarizzare il rapporto. Ma che regolarizzare? Dai, tu, è come stringersi un cappio al collo, no? È come suicidarsi. È evidente. Poi, per carità, ci sono anche assessori. Ma poi cosa ci sarebbe stato scritto in questo contratto? Cioè prestazione una volta a settimana, cioè una come volta, veniva una qualificata volta a settimana, la prestazione? Una volta a settimana. Come veniva qualificata la prestazione? Sarebbero più di 700 euro a prestazione, A botta. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Confindustria Italia fuori, ma la recessione lascia danni da dopoguerra, raddoppiati poveri e disoccupati, squinzi debole l'effetto della manovra. Legge di stabilità, il governo pone la fiducia, sindaci in rivolta, appello al capo dello Stato contro Italia e i bilanci e scoppia il caso slot machine. Letta replica le critiche di Confindustria, strumenti per la crescita ma senza sfasciare i conti, la manovra fa scendere tasse e spread. Napolitano Lampedusa, un simbolo screditato da episodi inammissibili, Bruxelles troppi tecnicismi, elezioni europee spartiacque, rigore crescita. Riunione all'alba della segreteria del PD, Renzi, la priorità è il lavoro per i giovani, non l'articolo 18, sulla legge elettorale parlo con tutti. Tafferugli davanti al CARA di Mineo, protesta dei migranti per le condizioni di vita, a Lampedusa rescisso il contratto con l'ente che gestisce il centro. E caccia anche con gli elicotteri al serial killer genovese evaso, per il giudice di sorveglianza il permesso è stato rilasciato su basi legittime. Oh, si è scatenato il tuo amico Buonanno. si è scatenato il Topico Borano, sì, che so, sì, che hai incontrato oggi alla Camera a Roma. Soprattutto, sì, oggi ho avuto lunghi colloqui alla Camera con una serie di deputati, di senatori. Tra cui Borano, ma cosa, vi siete insultati abbastanza? Colloqui quando... di altissimo livello. Vi siete insultati quando vi siete incontrati livello. O no? Ma abbiamo usato toni civili, toni civili. Lui in aula ha, mi ha detto, detto tu che non capisci un cazzo non apprezzerai, mi ha detto, quello che ho fatto. Dico, cos'è che hai fatto, caro? Adesso ti mando il video. Vabbè. Il filmato di Lampedusa, dice Bonanno, non è scandaloso, non si tratta di una spa, non è una spa. Beh, su questo che non sia una spa, devo dire, ha ragione Bonanno. Devo dire che mi sto ricredendo anche un po', ero scandalizzato il primo giorno. Ma ho fatto delle considerazioni, caro Parenzo. Ho fatto delle. E non ripetere la storia del collegio di Bergamo. Non no, ripetere la storia. Bergamo alta. Neanche Bergamo bassa, Bergamo alta ti cantano. Collegio sicuro. Buon anno, buon anno. Quel filmato che ha fatto così scandalo, io non lo trovo così scandaloso. Perché quando arrivano centinaia di persone alla volta e c'è il pericolo della scabbia, non penso che ci possa essere una spa a disposizione per tutti e che evidentemente per poter immediatamente andare a tutelare tutti quelli che lavorano, anche le persone italiane che ci lavorano dentro, perché ci sono tante persone che lavorano dentro, è evidente che devono trovare un metodo e non era un metodo da campo di concentramento. Ma su questo è vero, hanno parlato di lager, dai, cose assurde, dai, cose assurde. L'indignazione a me mi dà fastidio, quando io sento questa indignazione facile, semplice, l'indignazione a tutti i costi, l'indignazione per prendere voti, anche questa per prendere voti, voti. Certo, leghisti, anche i leghisti vogliono prendere voti, è normale, appunto. Ma tutti li vogliono prendere, mentre poi se ne fottono, nella quotidianità se ne fottono. Cosa qui, cosa ma chi, è, chi sapeva questa cosa? Perché gli immigrati votano, questi immigrati qui che sono arrivati, che c'entrano gli immigrati? Che c'entra? Così, dal buonismo di sinistra? Sì, il buonismo, buonismo, certo, non c'entrano i diritti umani, come sono trattate le persone. Ma quali diritti umani? Ma smettila. Sei pronto, ma quali per diritti? Il collegio, eh? Pronto, ma, lì, Bergamo 1, vota Crugiani, il romano che ha cambiato opinione. Sei, ma quale cambiato opinione? Senti buon anno, senti buon anno. Bergamo alta, coglione, già i manifesti, già coglione, con, senti lì, buon anno. Con la faccia di Crugiani lì, vota Bergamo. Ma no, Davide, un corno, un corno. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ma te che t'hanno mazzuolato, ti sei fatto mazzuolare ieri alla gabbia da un forcone qualunque, altro che... Basta, tu, t'hanno mazzuolato, basta! A te t'hanno mazzuolato ieri, altro che l'hanno cotto e ricotto ha ieri. Fatto bene, ha fatto. Sì, ma l'hanno cotto e ricotto, l'hanno mazzuolato, bom, bom, tutto il tempo lì alla gabbia, si è fatto mazzuolare. Il grande Mughini, che per me rimane un grande, eh. Beh, schiaffoni si è fatto da un forcone qualunque. Parenzo, ma dico... oh! È arrivato l'altro, è arrivato Michiché. Michiché, è arrivato l'altro, è arrivato l'altro genio. Buon anno. Secondo me si è esagerato moltissimo su questo fronte e vorrei anche ricordare che tutte queste persone ricevono indumenti, mangiano colazione, pranzo e cena, ricevono schede telefoniche internazionali e non mi sembra che vengano trattati come nei campi di concentramento, che è ovviamente una cosa lontana da tutti noi, e che ci sarebbero milioni di italiani invece che queste cose le vorrebbero, nel senso di ricevere quello che lo Stato italiano dà a questi clandestini che arrivano, e che invece questo non accade. Quindi piantiamola di fare sempre delle esagerazioni. Cioè, sostiene Bonanno che molti italiani sono trattati peggio degli immigrati di Lampedusa. Gente che rischia la vita, passa giornate in mare e non gli si può dare neanche un indumento pulito. Ma questa è la civiltà, questa è... Sì, Varallo Sesia, intellettuale di Varallo Sesia. Tanti parlano, non sono mai andati in quel centro, non capiscono niente di che cosa succede in quel centro e che sarebbe magari meglio che invece di stare nei salotti con lo champagne e il caviale andassero a vedere e verificare. Ma quale champagne, è pazzo! Grandissimo. Poi a un certo punto chiede di uscire dall'aula perché deve andare al cesso. Ma Piemonte 1 sei candidato o Lombardia 2? No, vai a fare in culo. Per la Lega. Vai a fare in culo, dai. Lì a spingere il carroccio. Ma ti vedremo a prendere l'acqua del Po. L'ampolla! Cruciani con l'ampolla sarà lì a dire Dio Po, Dio Po. Lega, Lega, Lega, Roma, abbiamo fatto la Lega. Non capisci un cazzo. Un altro. Volevo farle una richiesta, ma non per prenderla in giro, eh. Sono 3 ore e fischia che stiamo votando, no? Io avrei bisogno di andare in bagno, ma penso anche altri colleghi. No, ma non lo sto dicendo in maniera è volgare, per l'espletamento dei bisogni. Ho visto che lei precedentemente si è fatto sostituire 5 minuti da Giacchetti, immagino per lo stesso motivo. Noi deputati che stiamo qua nell'aula, ci fa 10 minuti di sosta e poi dopo ritorniamo e votiamo tranquillamente? Perché mi sembra scorretto che il Presidente lo possa fare e i deputati no. Stai chiedendo una sospensione? 5 minuti per l'espletamento dei bisogni corporali di molti deputati. Franco, provincia di Agrigento, buonasera. Franco, buonasera. Dimmi. Allora, io volevo dire una cosa. Tutti questi politici che si sono scatenati sul video shock, che effettivamente non è una bella cosa da vedere. Però io dico, ma perché... Ma ci sono tante cose brutte da vedere nella vita. No, volevo dire un'altra cosa, soprattutto ai politici. Lasciamo perdere i cittadini. Ma perché non si indignano così... Quando si ammazza la gente, quando si suicidano per disperazione, per fame, queste bastarde maledette. I politici, queste cose inutili dei politici, perché non si indignano quando la gente si suicida per fame, per disperazione? Allora? No, questo volevo dire. Io tutta questa indignazione da parte dei politici non la vedo. Quando si suicida la gente... Ah, lei dice non si indignano per altre cose, ma si indignano sempre. Non si indignano per cose più gravi. Effettivamente si tratta di un video shock, chiamiamolo shock. Non è una cosa bella da vedere. Però è rimasto vivo, giusto? Beh, certo, non è che li ammazzavano. Ma non è che li dovevano ammazzare, li dovevano... Ma quando la gente si ammazzano per fame, quando la gente vanno a rovistare nei cassonetti dell'immondizia, quando la gente vanno a chiedere l'elemosina, ed è sempre più in aumento la povertà, ma perché questi bastardi dei politici non si indignano per queste cose? Ma si indignano questo pure per questo, parole si indignano. Fanno finta questi maiali. Comunque io dico una cosa. Sì, che maiali. I politici italiani verranno sbranati vivi dal popolo che loro hanno affamato, guarda. Verranno sbranati vivi dal popolo che loro hanno affamato. Ma come li sbranano? Una classe politica di merda. Lei chi vota? Una classe politica di canale. Io ho votato sempre o destra o centrodestra. Comunque questo non vuol dire un cazzo. No, beh, adesso chi vota? Quanto fanno... Io ho votato sempre, dico o destra o centrodestra. Comunque dico che quando fanno scrivo quello di... Ma pure Berlusconi avrà le sue colpe, o no? Sì, pure Berlusconi fanno... o no avrà le sue colpe? Guardi, fanno schifo tutti, ma questo non significa niente. Significa una cosa, che io ho sbagliato a votare quando ho votato per destra o centrodestra. Comunque io voglio dire una cosa, il fatto che il cittadino vota o sinistra... Non è che ha votato per esempio per farsi peggiorare le condizioni. Vabbè, Giuseppe da Milano, fammi sentire Giuseppe da Milano. Ciao Franco. Giuseppe. Dimmi. Ti sente? Sì, ti sento, dimmi. Ah, ok. Intanto andiamoci da lei, visto che non sono tuo fratello. Ma vediamoci da lei come vuole lei, Giuseppe. Dai, su, andiamo al sodo, dai. Senta, Cruciani, allora, prima cosa usciamo dal dubbio. Il vostro è uno show, non è una trasmissione informazione, quindi... Bisogna dirlo agli ascoltatori che non si incazzino, il vostro è uno show e tipo tante altre trasmissioni che ci sono su altri emittenti. Senta, professor Giuseppe da Milano, vogliamo andare a qualcosa di concreto oppure dobbiamo parlare di questa trasmissione? Ma perché? Perché le ultimamente ha preso un po' di schiaffi in trasmissione lei, Cruciani. Ultimamente qualche adesso schiaffone adesso li prendo anche preso. Adesso li prendo anche da lei. Un attimo solo, un attimo. Zanzare, dietro le montagne, in collina, in campagna e anche al mare. E ancora casi. A proposito di quello che avviene in Parlamento, dello scandalo delle marchette, che si cerca di far passare nottetempo per finanziare enti di amici, eccetera, eccetera, sentiamo quello che è accaduto a un deputato di Forza Italia che si chiama Galati, che peraltro ha sposato una della Lega che si chiama Lussana. Signora Carolina. Allora, questo Galati cerca ancora, non so, di far passare un emendamento in cui si finanzia un'associazione di cui è presidente. Signor Galati, ma non si possono fare queste cose così sfacciate. L'hanno scoperto quello dei 5 Stelle, senti. Presidente, sono una cosa per capire se sia lei che il governo si è reso conto che per l'emendamento 12009 che abbiamo accanto noi, il primo firmatario è il presidente dell'associazione che chiede il riconoscimento, cioè Galati è il presidente che chiede l'emendamento e che chiede il riconoscimento della sua associazione. Vorrei sapere se il presidente della commissione e il governo hanno... Hai capito o no? Cioè, signor Galati ha chiesto un finanziamento nottetempo per un'associazione di cui è presidente in Calabria. Signor Fondazione Galati, i Sud del Mondo. Cioè, ma quant'è il finanziamento? Quant'è? Migliaia di qualche migliaia di euro? Quant'è? Sì, c'era qualche migliaia di euro. Poi pare sia sparito a un certo punto quell'emendamento, perché qualcuno si è accorto. L'incredibile vicenda che riguarda Marianna Madia, neo responsabile per il lavoro del Partito Democratico, va a parlare con il ministro Zanonato. Ovviamente la cosa è da confermare, lei non ha detto nulla durante la giornata, dunque bisogna presumere che sia vera. Va a parlare di lavoro con Zanonato, il quale dopo una ventina di minuti di colloquio gli dice: cara signora Madia, guardi che io non mi occupo di lavoro, sono il ministro dello sviluppo economico. La porta alla finestra del ministero e dice: il ministro dello lavoro si chiama Giovannini ed è nell'altro palazzo, quello che vedi lì. E gli indica dalla finestra il Ministero del Lavoro dove deve andare, capito? Cioè non sa nemmeno la signora Madia, da quello che sembra, da quello che riferisce il quotidiano Il Tempo, non sa nemmeno qual è il ministro competente. Entrate nel portone sbagliato, dai, magari. Ma io voglio farvi risentire, a proposito di killer evasi, c'è un altro caso a Pescara, tra l'altro, di un killer di Camorra in permesso premio anch'esso, che non si è fatto ritrovare, vabbè. E via, chi se ne frega, un killer di Camorra libero, chi se ne frega, no? Permessi premi a gogo, permessi premi a gogo, no, in Italia, il paese del Bengodi, il paese del Bengodi. Ma non è vero, ma come è no? Difficilissimo accedere ai permessi premio in genere. Ma quale? Adesso, ma pure i pluriomicidi, i serial killer, ma le persone che ammazzano, è stato un errore ammazzano la gente con il pietrone in testa, dai. Sembra che sia facile uscire dal carcere. Ma no, uscire, ottenere i permessi premio, sì, non c'è non dubbio. È semplice, perché il giudice di sorveglianza, c'è una procedura lunghissima per ottenerli, adesso si fa passare l'errore di genere come fosse la norma. Su pomate, pomatine, cifronella, macolur, che niente. Gianmanco dai, di Forza Italia, che dice che Berlusconi non può andare in Europa mentre in Italia non può girare perché senza passaporto non può andare al vertice del Partito Popolare Europeo, e invece è follia pura. Un criminale che già è stato condannato, credo, per 3 omicidi, quindi un pluriomicida, un serial killer, viene fatto uscire per buona condotta e che poi chiaramente non rientra, mentre un leader che dal 94 esiste in Italia come leader del centrodestra, riconosciuto da milioni e milioni di italiani, per allontanarsi 12 ore e andare al summit del PPE, a lui non è concesso. Dai su, ma cosa cazzo c'entra? Gianmanco, amica mia, Gianmanco, che c'entra adesso l'evasione vergognosa di un serial killer a Genova, con una città preoccupata, una regione preoccupata, e Berlusconi che non ha il passaporto per andare al vertice del Partito Popolare? Non ha il passaporto perché lo sappiamo, perché non ha il passaporto, poi uno può speculare, per carità, ma risentiamo la performance del Pennacchione ieri sera qui alla Zanzara. Antonio Pennacchi scatenato contro Berlusconi. L'unica azienda che ha sanato sono le sue e basta. Ma ti dispiace un po' che uscita dal Senato Berlusconi? Dimmi la verità. No, secondo me dispiace, ancora non l'hanno messo dentro, perché non può andare dentro per limiti di età. Ma Benedetti, allora è andato, mandatelo dove pare, però basta, no, continua a pernacciare. Lo prenderesti a casa tua lì nel ladro pontino? Ma c'è una tante lui da casa, perché devo andare io a casa sua? Beh, perché dimmi che non vorresti averlo una sera a casa tua a cena, dai. Ma no, almeno. Ma almeno l'interesse culturale di conoscerlo. Ma sei un giustizialista, vuoi in galera per il storico, ma sei una vergogna. Ma no, sei tu che sei stronzo, e questo è vero. Questo è vero. Sei il capo dell'opposizione. E chi se ne frega? E mo perché sei il capo dell'opposizione, tu puoi parcheggiare sempre in sosta vietata. Ma puoi andare a vincere e fammi finire. poi se arriva il vigile e te fa la multa, dici no, vaffanculo, il vigile è comunista, ma vaffanculo, questa è una vita che parcheggiato cazzo gli appare a lui in mezzo alla strada, sopra il marciapiede, dentro casa dell'altro, poi arriva il vigile e dice il vigile è comunista, ma vaffanculo, e paga le multe, oppure parcheggiato, l'hai fatto, hai parcheggiato male, ma paghi la multa e non rompi più coglioni e andiamo avanti e cambia. Perché tu ridi, no, ma rido per la metafora della macchina. Sono vent'anni che stavo in mezzo al guado, non ne usciamo. Bisogna uscire dal guado. Ho capito. Fammi parlare. Bisogna costruire un sistema politico che consenta a te certezze. Chi vince per 50 di cornata. I giudici vogliono mandare gli unici che sono in questo momento in grado di fare questo, sì, e soprattutto cambiare il sistema politico e agganciare il treno della ripresa, ancora con sta perché ripresa. C'è la ripresa economica a tutto il mondo, c'è in Europa. No, io sono uno storico e ho studiato pure l'economia, sì, mica sono ignorante come te che stai qua distrozzata la radio. Allora, ascolta, io credo che se noi agganciamo la ripresa, no, non agganciamo nessuna ripresa. Io credo che questo io ti ho chiesto perché non voglio fammi parlare. Io credo che questo sia. Ma vaffanculo a te, Beppe Berlusconi. Una sera i giudici non vogliono che vada al vertice del Partito Popolare. Non gli danno permesso di andare fuori. Ma chi se ne frega? Ma senti a me, ma secondo te, ma secondo te in America a Nixon, dopo che l'hanno scoperto, gli danno la presidenza di che? La presidenza di sto cazzo gli davano, no, abbi pazienza. E non stiamo a fare i ponti, no. Hai parcheggiato male. Resta con noi. Hai parcheggiato male. Come dice il vecchio proverbio, tanto va la gatta all'ardo che ce lascia lo zappino. Pacchete, mo che l'hanno chiappato e tradito il culo, ma che vuoi da me? Vuoi sfasciare il paese? Te ne alimenti i forconi, questo è andato in Francia a dire se mi cacciano a me arriva la rivoluzione, abbiamo intanto stanno d'accordo con questi cazzo abbiamo il forconi. Cinegiornale ora, il cinegiornale. Pomate, pomatine, citronella, marco, Antonio Pennacchi, ieri sera alla Zanzara, vabbè. Ero con Giuseppe da Milano, ma che cazzo vuoi Giuseppe? Adesso mi hai fatto ridere, adesso mi devo mettere a litigare con te, dai Giuseppe, che vuoi? Bravo Cristiano, mi fa piacere che l'avete mandato Pennacchi perché è stato veramente il top della serata di ieri. Ma allora che cosa vuoi da me? La stessa della porchetta quello lì, cioè, ma ce ne sono altri Ma vergo, ma non sai, non hai nemmeno un decimo di quello di Pennacchi. No, ti vedo un po' in difficoltà Cristiano, stai calmo, ripeti piano. Sì. Allora, io volevo intervenire in assoluto accordo con te. Vedo un po' in difficoltà, non riesci ad articolare bene le parole, però scusami, non riesci ad articolare bene la parola. Insomma, cosa vuoi Giuseppe, cosa vuoi, dimmi, no? Cosa vuoi, dimmi. Io volevo intervenire sul no TAV che più o meno un mezzo e mezzo fa era intervenuto in trasmissione dicendo che lui picchiava i Severini quando questi non avevano il manganello da ragazzini, cioè io. Ma di che stai parlando? Di cosa parli? Di cosa parli? Parenzo, intervieni pure tu, però. Non riesco a capire dove vuole arrivare, questo è il punto. Pronto. Dove vuoi arrivare? Pronti? Non dove capisco il ragionamento. Pronto. Dove vuoi arrivare? Ciao. Pronto? Dove vuoi arrivare? Sì, vabbè. Mirko da Perugia, dai. Sì, Mirko, dimmi. Sì, ciao. No, io a parte che siete stati un'ora a parlare questi di Lampedusa, che veramente, guarda, questo tanto è un problema che secondo me cioè risolve la Kang, la Boldrini, quella femminuccia di Parenzo che sta vicino a te, perché a noi in Italia onestamente non ce ne frega proprio niente. Ma come si fa? Proprio niente. Però, un po' c'è ragione, ma la gente che gli frega che gli hanno fatto è tutto sto bordello, tutto sto per razzismo, una doccia, no? Non era proprio una doccia quella là, non era una doccia. Sì, razzismo, insomma, cioè. Però poi io riportavo da Parenzo, gli facesse lo shampoo, tanto poi magari eccolo qua, io volevo dire anche questo, poi non solo, cioè andiamo a difendere questi, no? E condanniamo i forconi, poi i forconi. Vabbè, questo cosa c'entra adesso? Mirko, cosa c'entra adesso questo? Qual è il collegamento tra il Lampedusa allora, e i forconi? Quella femminuccia che sta vicino a te. Vabbè, aridai, come fosse un insulto. Comunque, parlato maschio, sì, certo, sono analfabeti, sono ignoranti. Il allora, la gente è ignorante, non ce l'ha i figli, cioè non ce l'ha la famiglia da mantenere, cioè, oppure come ha detto Mughini, sono analfabeti. E vabbè, purtroppo è così, cioè vuol dire gente che fanno i camionisti, gente che faranno i falegnami, c'è gente che vabbè, allora? E allora sono italiani e noi dobbiamo difendere gli italiani. Vabbè, Mirko, arrivederci. Giulio da Genova. Giulio? Giulio, Daniele da Roma. Sì, ciao, pronto? Dimmi. Ah, Ah, bellissimo. Senti, qui bellissimo. Vedo che fanno tutti un sacco di critica, forconi, ma questi, oltre che sono analfabeti, ovviamente vogliono le stesse cose che si sono fatte per vent'anni, cioè vogliono il lavoro regalato, cioè vogliono l'assistenzialismo e tutto il resto. Questo non c'è dubbio. È normale. Ma io dico, allora, ma perché devono scendere e creare disagio a chi il lavoro invece ce l'ha e rompere le palle? Lo so che lo dite sempre, ma qui mi sembra che tutti sono contro il sistema democratico di sto paese, cioè tutti quanti piccoli duci si fa come dicono loro. Allora, se sono tutti contro la democrazia, se lo si dicesse e basta. Va bene, Daniele. Luca da Milano, buonasera Luca. Buonasera. Dimmi. Senta, una cosa, volevo innanzitutto fare i complimenti, ieri è stata una bella trasmissione. Vabbè, poi? Con il pennacchione e si sono anche dette cose importanti, toccati argomenti importanti. Questa sera devo farvi un appunto. Voi avete parlato della problematica di Lampedusa, di quel video e tutto quello che gli sta attorno. Compini! Ragazzi, Compini! Ma che cazzo è sto Pini? Cioè, allora io dico una cosa, un conto ha senso. Parte che noi parliamo con chi ci parla, parliamo con chi ci parla. Fare due risate e chiamare un incompetente per trattare un argomento così importante per prenderlo in giro e va benissimo. Parenzo secondo me è anche stato troppo delicato, perché voi li tirate nel vostro tranello, va bene, ma poi bastonateli ragazzi. Quello parlava di un argomento che non conosceva. Le vostre telefonate, una domanda che vi faccio, i vostri dimmi, fallo tu l'intervento intelligente, Luca, vai. No, le ponderate, le stabilite a seconda di quale criterio, nel senso che ma non c'è nessun criterio per questo, no, perché guardate che in questo modo rischiate pure di fare cattiva informazione. Io sono con Parenzo completamente, l'ha preso in giro, doveva bastonarlo di più, perché con la gente lì non si può permettere di... La gente a Lampedusa, a me è venuto un dubbio, ma non so se vi è capitato di pensarvi, ma non è che la scabbia, la rogna, quello che hanno preso, l'hanno presa all'interno di questi centri d'accoglienza. L'Europa stanzia tantissimi fondi, ci dà in mano grossi, grossi patrimoni per far sì che questa gente sia... accolta e possa vivere in un minimo di dignità. No, guardi, non l'hanno presa da nessuna parte. È una quegli idranti vengono scatenati in modo preventivo, hai capito? Cioè... Guardate il filmato, ho parlato semplicemente di un mio dubbio mi è venuto. Guardi, l'unico problema è che quelle robe lì l'hanno presa in questo centro. Ma non l'hanno, erano appena arrivati, Luca, dai, su, non è così, dai. Beh, appena arrivati non lo so. Comunque, guardi. Giulio da Genova, fammi sentire Giulio da Genova. Dai, facile ciao. Che in questi viaggi della speranza. C'è dai, Giulio. Spenda. Allora, io volevo dire semplicemente che nel 1946 avevo 8 anni. Sì. In un collegio anche religioso e anche di allora? Certo livello economico, mi nebulizzavano con delle pompette che allora si chiamavano del flit. Non so se le ricorda. Allora? No, perché lei è più giovane. Per levarci la scabbia sul petto, ma nudi davanti agli altri, nudi sulle mani e sui piedi, nudi davanti agli altri, non ho capito. E davanti ai preti, più che altro davanti ai preti. Vabbè, ma questo non vuol dire nulla, ci si evolve però, cioè vuol dire stiamo parlando degli anni 30, degli anni 40, quello che è. Per fortuna c'è la civilizzazione. Vabbè, ho capito, quello c'è il progresso, appunto, per fortuna le persone migliorano in genere, non tutte, ma per fortuna si migliora, la civiltà tende a migliorare. Ma la sento molto male, mi scusi. Si va avanti, dico, si va avanti, non si resta sempre fermi, non si resta sempre ancorati lì, ha capito? Semplicemente le spiegavo che io ho avuto questa disinfezione. Beh, lei, io non ho capito se lei è rimasto colpito da questa roba, sì o no? Sì, moltissimo, è ridicola. Cioè, è ridicola cosa, la polemica? Sì, infatti. Vabbè, arrivederci. Oh, per chiarire una volta per tutte, se esiste o no questo contratto, farai sesso con me una volta a settimana. Contratto definito shock tra l'assessore De Fanix, ex assessore alla cultura Regione Abruzzo, e la segretaria. Abbiamo l'avvocato dell'assessore De Fanix, che ovviamente il quale ovviamente è l'avvocato dell'assessore De Fanis. Però qui non stiamo parlando di colpevolezza o meno nella vicenda delle tangenti o delle presunte tangenti, non stiamo parlando di altre cose. Vogliamo capire se questo contratto, perché io ho detto in apertura, Domenico Frattura, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera avvocato. Ho detto in apertura che se l'avvocato, cioè scusi, no, lei non c'entra niente, che se l'assessore avesse fatto firmare questo contratto alla sua segretaria, saremmo in presenza di un coglione. Adesso l'ho detto in maniera molto, follia, diciamo, come dire, in maniera molto pittoresca. Perché questa è la nostra trasmissione. Però se uno fa firmare un contratto in cui c'è scritto farai sesso con me una volta a settimana per un compenso di 36.000 euro l'anno, 3.000 euro al mese, può essere definito un coglione. Lo potremmo definire così se l'avesse fatto? Ma penso che la definizione forse sarebbe anche fin troppo buona, perché... Cioè sarebbe come secondo lei se uno avesse fatto un contratto? È un contratto che sarebbe assolutamente nullo sotto ogni profilo, sotto l'aspetto legale. Sarebbe una prova di una condotta scellerata. Cioè sarebbe un imbecille, cioè sarebbe un... Sì, non avrebbe nessuna utilità questo tipo di contratto se non quella di rovinarsi la salute e la vita. Scusi, dunque questo contratto non esiste? Secondo voi? Della presunta esistenza di questo contratto noi ne siamo venuti a conoscenza in realtà leggendo il giornale Repubblica di oggi. Sono arrivate poi tutta una serie di smentite da quelli che avrebbero semmai potuto confermare l'esistenza di questo contratto, perché mi risulta che la Procura della Repubblica abbia smentito dell'esistenza e che la stessa signora ne ha, o il legale della signora pure parimenti ha smentito l'esistenza. Cioè, i virgolettati che ho visto oggi, l'assessore era ossessionato da me, mi ha costretto a firmarlo, io non ho potuto rifiutare, ho avuto paura. Sono tutti finti, tutto non corrisponde al vero. Guardi, io non conosco il contenuto dell'interrogatorio reso dalla signora, anche perché mi risulta che sia un altro allo stato segretato. Credo che comunque, o meglio, so che la signora attraverso il suo legale abbia comunicato agli organi di stampa che ha intenzione di attivare azioni giudiziarie proprio perché queste dichiarazioni... Però sembra strano però. Purtroppo non dovete chiederlo a noi, andrebbe chiesto... Cioè allora lei dice questo contratto non esiste, non è mai stato firmato. Ma guardi, io quello che le posso dire... No, ma esiste o non esiste, però me lo dica, avvocato, però dobbiamo almeno chiarire questa cosa. Guardi, a noi non risulta che esista questo contratto. Questo cioè, il suo assistito, che è l'assessore, ex assessore De Fanis, dice... Io non ho mai firmato nessun contratto. Non esiste nessuna carta che abbia valenza contrattuale con questo contenuto. No, aspetti un attimo. Una cosa è un foglio con valenza contrattuale. Esiste qualcosa? Lei mi parla di contratto, io le dico questo. No, d'accordo, però adesso non stiamo a giocare con le parole. La questione contratto è ovvio, perché lei dice non può esistere un contratto di questo tipo, non avrebbe nessun valore. Ma esiste un pezzo di carta in cui c'era un accordo tra i due da questo punto di vista? Lo esclude, però non lo può. Lo esclude. Lo escludo. Io quello che le posso dire che è evidente che tra le due persone c'era un rapporto che andava oltre l'aspetto lavorativo. Cioè c'era una relazione? C'era un rapporto che andava oltre l'aspetto lavorativo istituzionale, questo emerge anche dalle intercettazioni che ci sono state. Cioè le chiedo, avevano una relazione i due? Avevano una relazione, sì, c'era un rapporto che andava oltre questo aspetto istituzionale e lavorativo. Da quanto tempo? Nell'ambito di questo rapporto, due persone che hanno dei sentimenti, hanno una relazione appunto, credo che possono aversi scambiato delle opinioni o essersi dette delle cose che forse oggi possono essere interpretate male o comunque... Ma sempre a voce o anche per iscritto? Ma non posso escludere che ci possano essere state degli sms o anche delle mail o anche delle lettere tra i due, ma questo penso che sia una ovvietà, nel senso che... No, d'accordo, oggi... ma lettere d'amore oppure che riguardavano... Perché si è parlato di 3.000 euro per queste prestazioni sessuali, diciamo, e di 36.000 euro l'anno, eccetera, eccetera. No, questa cosa, guardi, le voglio dare un dato che forse a qualcuno sfugge, e cioè che il rapporto lavorativo della signora sarebbe cessato, e questo è agli atti, il 30 novembre. Questo pseudo contratto, questo foglio di cui si fa riferimento, sarebbe stato sottoscritto a ottobre o via dicendo. E ovviamente se così fosse, voglio dire, non appare logico che si fa un contratto di un rapporto di prestazione lavorativa dove deve rientrare anche la prestazione sessuale quando si sa benissimo che il 30 però, scusi, esiste un contratto di 36.000 euro per lavoro, allora quel contratto lì esiste. No, questo lei sta dicendo. No, il contratto che c'ha la signora c'è un contratto con la... Allora, i rapporti tra i due sono mai stati rapporti di tipo mercenario? Questo le voglio chiedere. No, assolutamente no. Cioè, i due si sono amati? Assolutamente no. Guardi, che ci fosse un rapporto sentimentale si evince dalle intercettazioni telefoniche che sono state anche pubblicate nei giorni scorsi, insomma. Sì, questo è un rapporto sentimentale. Non c'è mai stato pagamento per questo rapporto. Ma parliamo di rapporto sentimentale, altrimenti parleremo di rapporto di altra natura, parleremo di meretricio, insomma. No, ma infatti, siccome si è parlato prettamente di meretricio in questo caso, no? Di meretricio. È strano, allora. Io glielo sto escludendo. È strano quello che dice la signora, allora. Come? Cioè, perché la signora si sarebbe inventata una storia simile, visti i virgolettati citati dalla... Allora, qual è la ragione che lei si dà? No, io non sono convinto che la signora abbia detto queste cose, perché a me è stato escluso che la signora abbia detto queste cose. Mi è stato detto che la signora addirittura intende agire anche in sede giudiziaria per far smentire queste affermazioni. Vabbè. La signora ha detto, e questa cosa mi consta, la signora ha detto che a un certo punto il rapporto alla fine, perché questo rapporto era ormai stava scemando, si stava esaurendo, rapporto sentimentale. Alla fine ovviamente... delle due persone, evidentemente quella che aveva deciso di troncare la relazione era la signora, e rispetto a questa decisione evidentemente lui non era d'accordo. L'assessore invece non era d'accordo, nel senso che l'assessore aveva ancora un trasporto per la signora, e quindi ovviamente faceva come credo qualsiasi persona innamorata che crede o percepisce che sta perdendo l'affetto dell'altra persona, faceva l'innamorato, e quindi magari gli faceva delle Senta, ma è vero allora che questo contratto è stato trovato praticamente a pezzetti e poi è stato ricomposto? Che cos'era allora, questo foglio di trovato? Questa circostanza ovviamente io non ero presente quando è stata fatta la perquisizione a casa della signora, perché era il giorno degli arresti. Quello che le posso dire è che io personalmente nel fascicolo in possesso della procura non ho rinvenuto nulla di che possa essere un foglio di carta strappato. Il mistero del contratto. Grazie avvocato, grazie. Prego, buon lavoro. Niente, io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serva. Non serviamo a niente, caro amico, non serviamo a nulla. Che vengono lontane le... Ma si può essere così demente? Beh, me lo chiedo io praticamente ogni giorno. L'arpa. Ceausescu! Ceausescu! Borghezio incazzato nero con l'ambasciatore italiano in Congo per la storia delle 24 coppie, no? Le 24 coppie che sono lì, il governo del Congo, e gli americani avrebbero mandato i Marines, dico solo questo, eh. Io non voglio dire niente, non voglio dare colpa a nessuno, cioè gli americani, se ci fossero state 24 coppie bloccate in Congo in attesa di avere, no, via libera, fossero stati cittadini americani, sarebbero stati mandati i Marines. E nessuno si sarebbe permesso di tenerli fermi. Comunque, non voglio più mangiare pane. Marione Borghezio ha battuto i pugni sul tavolo con l'ambasciatore italiano. Noi abbiamo registrato tutto. Tra la steppa del Mar Nero c'è il divano di Tarasco, c'è la statua del... Hello, posso? Allora, buongiorno, sono Borghezio, deputato del Parlamento Europeo da Bruxelles. Sì. Senta, io avevo chiesto stamattina di poter parlare con l'ambasciatore Mariani. Lei può avvisare l'ambasciatore che avrei piacere di parlare. Posso passare l'ambasciatore? Un momento. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno, sono Borghezio, eurodeputato da Bruxelles, al Parlamento Europeo. Vorrei parlare gentilmente con l'ambasciatore Mariani. Sono io, onorevole, sono io. Ah, buongiorno ambasciatore, senta, mi scusi tanto il disturbo. Volevo sapere com'è la situazione e cosa riusciamo a fare, perché le notizie qui dall'Italia è che questi genitori siano un po' molto allarmati, perché dopo quasi un mese di attesa. Dunque, guardi, per il momento la situazione non ha avuto evoluzioni positive. E come mai c'è questa difficoltà? Dunque, il fatto è che i congolesi ci avevano promesso in sostanza che nei giorni successivi la questione sarebbe stata risolta rapidamente previo un piccolo ricontrollo delle pratiche. Ci facciamo rispettare o no? Perché a questo punto dobbiamo anche. Cioè abbiamo persino un ministro congolese, non lo so più di così. Ambasciatore, qui bisogna alzare il tono della voce, perché è la nostra gente che è in difficoltà. Sono sulle spese da due mesi e non posso sentirsi dire, come mi dice lei, che non sappiamo, che abbiamo risposte negative. Lei vada al ministero e batta i pugni sul tavolo, santo cielo! Ambasciatore, mi scusi se alzo un pochino la voce, però qui è il nostro paese che ci fa una figura di merda, mi scusi l'espressione. Sì, beh, capisco. Ambasciatore, salga sulla nave, comunque, cavolo! Noi, sì, sì, no, io ci sono, guardi, ci sono sulla nave, non si... Benissimo, e allora mi dia buone notizie, cosa sono qua e condivido... Io sono pronto a venire, se ha bisogno di me. Io sono pronto a partire, perché questa gente è la nostra gente. Ma come mai il ministro non torna di persona, che parla la loro lingua e sicuramente si fa capire meglio di noi? Non possiamo tenere, farla venire e tornare in loco, in patria. E tra l'altro sarebbe bene se magari si fermasse anche a Lugo. Voglio discutere con te, diventare matto se tu sei gelosa più di me. Ambasciatore, bisogna svegliare sto governo, basta di pugni sul tavolo, far capire che noi questi bimbi li dobbiamo portare a Natale, perché le famiglie vanno difese, le nostre famiglie, quando sono lì alla mercé della situazione, visto che abbiamo un ministro che non vale un H, perché il ministro Kenji in questa situazione dimostra di non valere niente. Ambasciatore. Oh, è con noi, caro Parenzo, caro David. Sì. Beh, uno dei leader del Movimento 9 Dicembre, un amico tuo, un amico tuo. Non è nemmeno amico mio, devo dire la verità, l'abbiamo attaccato, però, come dire, non si tira indietro. Danilo Calvani, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Come andiamo? Stanco, ma soddisfatto. Ma ecco, soddisfatto di che? Dopo sto flop di ieri, Calvà? Ma quale flop? Provate voi a portare gente in piazza senza partiti e senza sindacati. Provate voi a portare la gente in piazza dopo notizie che hanno devastato, violenti, sfasciano, rompono, cattivi. Invece è stata una festa, ieri è stata... Beh, ho capito, però 3.000, veramente eravamo 7.000 e non 3.000, guardate i dati della questura e non dei giornali, che stranamente le tribune non hanno mai ripreso. Ma lei ha parlato pure di un mezzo complotto, i treni, le cose, che è successo? No, si sono fermati. Come si sono fermati? Ci sono guastati casualmente dei treni. Ma come casualmente, dai Galvani, su, non è che può esserci stato treni. Il complotto, dai. Sarà stata la Unione Europea, la BCE, sarà stato Draghi a far guastare i treni. Eh? Draghi. No, non l'ha fatta questa Draghi ha fatto questa l'Italia. Quindi figurati se fa questa i treni. Quindi ha guastato l'Italia. Ma comunque i treni non erano rotti per la manifestazione, sono rotti perché il paese sta allo sfascio. Quindi figurati se vengono a sfasciare i treni. No, noi abbiamo dato fiducia ancora una volta a dei mezzi, insomma, invece questi qua distrutti dal paese, usurati da questi politici, ovviamente se la sono sentita. Ma chi? Chi? I treni, ne abbiamo risentito della crisi, no? Dai, questo, ma Calvani, ma non è che c'è stato il complotto per non fare venire la gente? E lei dice pure che i giornali vi hanno dipinto come dei violenti e dunque la gente non è venuta. Ma non è quello, è che uno la rivoluzione la deve saper fare, Calvani. Ah, certo, ma infatti io sto aspettando che qualcuno me la insegna. Ma è appunto, forse ha bisogno di qualche... Da me no, perché io non la voglio fare la rivoluzione. Ecco, no, ma lei mi ha fatto la domanda, quindi me la insegni. No, io non la voglio insegnare niente, perché non mi metto a capo della rivoluzione. Solo che ieri Pennacchi, il suo conterraneo Pennacchi, ha detto che siete sostanzialmente dei sfasciacarrozze, lo conosce Pennacchi, lei è lo scrittore? Come no, un grande scrittore, Pennacchi esprime le sue idee, appartiene a un partito che è netto politico, quindi ovviamente quando noi parliamo di degenerazione politica lui si risente, giustamente. No, ma mica ha detto che siete sfascisti, che non volete niente se non far cadere il governo, poi comunque lui non appartiene a nessun partito politico. Non è vero, lui è del PD. No, è tifoso del PD, è tifoso del uomo libero. Io conosco bene Antonio, conosco bene anche un buon rapporto, lui è del PD, va a votare le primarie, si è candidato, ha fatto la campagna per Cuperlo, quindi non dire cavolate perché... No, è elettore del PD, ma non è che sia iscritto al PD, non è che è militante così, che tutto quello che dice il PD va bene. Non c'è un convegno, a parte che lui è iscritto anche col PD, quando è che, perché non c'è un convegno del PD, non c'è nessuno del PD qua in Latina, che lui non c'è. Comunque ha detto che siete sobillati da Berlusconi, Lui? Sì, ha detto che siete... Noi sobillati da Berlusconi? Sì. Io personalmente, per carità, guardi, probabilmente su qualcosa ci ha indovinato, ma non su di me. Su chi, per esempio? Chiavegato, no? Ah, non lo so, io non su di me no, Se l'ha detto avrà dei buoni motivi. Lui ha parlato al plurale. No, ha parlato al plurale. Ha parlato di Forconi in generale. Di Forconi. No, no, mi conosce bene a me, Pennacchi. Sa che sa perfettamente. Scusi, che quanti debiti ha lei? Quanti debiti ha lei con Equitalia, Galvani? Eh beh, come tutti gli italiani, parecchi. No, come tutti gli italiani. Io non ce l'ho i debiti con Equitalia. Scusi. E come mai lei sta bene? Ma non è che sto bene, non è che tutti abbiamo debiti con l'Italia. Ma lei non è imprenditore, ma lei non è imprenditore. No, no, ma non è che ma nemmeno tutti, ma non è che tu ho capito, Galvani, io non sto dicendo che chi ha debiti con l'Equitalia è un bandito, è un delinquente, no, perché c'è un sacco Ho debiti con l'Equitalia perché non ho pagato i miei contributi, i miei dipendenti, i miei personali, quindi lei deve sapere che io sono contadino, pago circa 4.000 euro l'anno, 4.500, dipende dalla fascia, sì, dei contributi personali, non ho pagato i miei e quindi se sono accumulati i miei, e quanti ce n'ha? Quanti ce n'ha? Beh, erano una trentina di mila, adesso non lo so. E come fa a pagarli? Come fa a pagarli? Piano piano. Che paghi? Perché sembrano andare le cartelle, se sono conti pubblicati con tutti questi interessi usurai, che paghi? Poi ovviamente quando parte Equitalia, voi dovete sapere, magari se qualche commercialista c'è, che c'ha precedenza, ti levano tutti i prezzi che c'hai, i fidi, ti tolgono tutto, quindi anche con i tuoi clienti praticamente ti crolla tutto, ti crolla il mondo addosso e non puoi rientrare. Quindi si accende una cartella, come li pago? Io magari pago perché l'azienda va all'asta, quindi i miei beni vengono venduti, quindi pago quei beni, è andata all'asta, sta all'asta, quindi li pago così, non è che lascio il debito. Devo dire la verità, Galvani, che ieri lei sul palco sembrava uno che arringa la folla proprio da uomo. No, italiani! Italiani! Beh, oddio, questa frase non l'ho mai detta. Ho fatto questa ringa, questa forza verso Papa Francesco, che è veramente un mito. E che io. Vabbè, ma capito, Papa Francesco è uno di noi addirittura. Beh, diciamo che com'era la storia? Uno di noi, Francesco, uno di noi. Mio figlio ha 8 anni, di il 10 noi. Gennaio. Mio figlio ha 8 anni, il 10 gennaio l'ho chiamato Carol. Quindi fate voi. No, veramente sta dicendo Carol, questo. Come vuoi Tila? Vabbè, questo è certo. Cioè, suo figlio l'ha chiamato Carol. Sì, come vuoi. Fa 8 anni il 10 gennaio, fate i debiti conti. Beh, questo è molto bello. Il 10 gennaio fa 8 anni, quindi calcolate bene. Questo è bello. Io il prossimo lo chiami Francesco. Il prossimo lo chiami Francesco. Allora. Non so se ce la faccio. Ormai mi sono quasi consumato. Non so se riesco più a prolificare. Cioè, è un po' tosta. Non gliela fa più. Quanti anni ha lei? Non ci si pensa più. Ce ne ho 4. Ho dato tanto. Ah, 4 figli. Quattro già. Figli, bravo. Sì. 4 figli. Beh, ha dato già. Ha dato, sì, ha dato. Sì. Ormai. Ma io critico. Ma tutti con una donna? Due donne. Due ammazza lei. Poi lei è Galvani. Vabbè. Si è dato la fa da questo punto di vista. Cioè, dunque, sul groppone c'ha pure il divorzio, c'ha pure una separazione sul groppone. Sì, consensuale però. Diciamo che. Lo sappiamo bene. Il povero leader dei Forconi. Si vivicchia. Però scusi, non è un caso, caro Galvani, che tutti voi, lei, Chiave Gatto, con cui ormai siete in disaccordo totale, avete tutti sul groppone qualche decina, se non centinaia di migliaia di euro col fisco. Non è che volete fare sto casino così per salvarvi, no? Ah, tu dici famoso. No, non lo so. Ma ci si salva subito, basta fare un accordo con qualche partito politico sotto e i problemi si risolvono. Quindi, ma ti hanno offerto la candidatura? Qualcuno ti ha offerto in questi giorni? No, guarda, Pennacchi mi conosce bene, quindi è giusto che lui critica, perché è un grande scrittore, un uomo che insomma è premio Strega, quindi per carità. Chiedici a Pennacchi se io accetterei una candidatura da chi che sia, chiedecelo. Mai. Guardi che se la troviamo candidato in qualche partita alle europee, vengo lì col forcone Aspetta. Magari ci ha pensato, questo è legittimo, ci ha pensato. Io mi sono candidato al mio comune come contadino, come CRA, contro tutti. Vabbè. Con la scritta sopra: non votateci perché non siamo corrotti. Andate a vedere i giornali del 2011. Ma non era perché non votate a noi perché non siamo corrotti. Questo sì, tutti i contadini erano proprio CRA, l'abbiamo chiamata CRA. Sì. Quindi se voi andate indietro di 2 anni, poi la presentate. Scusi, ma Mughini ieri che vi ha detto di tutto? Mughini. A me no, se l'è presa con Chiave Gatto. Con Chiave Gatto, ignorante, gli ha detto di tutto. Ignorante. Un attimo, resti lì, ci sentiamo dopo la pubblicità. Sono come zanzare. Eccoci qui con Danilo Galvani, leader del Movimento 9 Dicembre, cosiddetto dei forconi. Caro Parenzo, dato che l'abbiamo martellato nei giorni scorsi parlando di flop, parlando politicamente di proposte criticato. Che non c'erano, perché caro Galvani, la verità è questa, che voi, oltre al fatto di dire via il governo, via questo, via l'Europa, avete urlato le banche, cioè, che cazzo proponete? Allora, Io proporrei, intanto per cominciare, un bel reddito di cittadinanza di 20.000 euro a testa ogni italiano. Ma quello non si può fare. Perché non 25 o 30? E perché non si può fare? Scusa, se fa. Ma 20 che adesso ogni italiano? No, non si può fare. All'anno dici tu, all'anno, al mese. No, al mese. Sì, al mese, dai, su Danilo, non scherzare, dai. Vabbè, possiamo anche fare qualcosa di diverso. Poi trattare su sta cifra. Trattiamo. Vabbè, comunque, dai, a parte dire tutti sono tutti ladri, via il governo, via tutto, che c'è di altro? Non c'è nulla, non c'è niente, ha ragione. C'è il Papa. Ma il Papa mica è un programma politico, il Papa. Non è un programma politico, fa il Papa. Ma sì, ma ho capito. Qui non c'è etica, qui non c'è solidarietà, qui non c'è più niente. Non c'è etica, non c'è. Ma non c'è più nulla. Vogliono fare pure il matrimonio gay. Vogliono fare pure hanno preso l'uomo, l'hanno scambiato come merce umana. E chi è quello? Chi è quello? Che non lo so, non lo so, l'ho sentito di. Non lo so. Hanno scambiato un uomo? Ma che stai parlando? Della roba di coso? Della roba di Lampedusa? No, l'ho sentito di, stavo viaggiando l'altro giorno, se ti sai che hanno preso uno, l'hanno scambiato con merce umana, caspita. Dico, allora qua qualcosa non quadra. Non mi ricordo, però l'ho sentito di. Vabbè, dai, su, Dani, non scherzare. A che ti riferisci? A Lampedusa? No. Era in generale, insomma, ovviamente, insomma. Prima passa la finanza, prima passa l'economia, prima passa il valore economico. Ma Napolitano, adesso vedi Napolitano, che colpe ha? Gravissime. Sì. Il napoletano chiaramente non rappresenta il popolo italiano, non rappresenta no, più. Non rappresenta, cioè, più. Non come istituzione, per carità, intoccabile, ma come uomo non credo perché? Che sia in grado. Perché dici? È evidente che un presidente che dice che un paese come Italia deve rinunciare alle proprie sovranità, insomma, non credo che può dire una cosa del genere. Ma fosse per te via dall'Europa subito, no? Via dall'euro subito. No, io non ho detto via dall'Europa, via da questa Europa. Questa Europa è fatta. A me mi hanno messo in bocca addirittura. Io ho parlato di. L'altra volta mi ha detto commissione militare, no? Governo transitorio. Commissione militare. Vabbè, un po' l'hai detto, dai, nelle righe. Fammi parlare, però. Commissione militare. Qua noi abbiamo la Commissione europea, che è peggio. Cioè, peggio di che? Peggio del governo militare? Cioè, noi siamo in una commissione. Peggio di una dittatura. Questo non si può fare e l'Europa ha detto, l'Europa fa, ma che stiamo a scherzare? Noi siamo un popolo sovrano, diciamo noi quello che dobbiamo fare il futuro nostro, che vostra Europa. È anche vero allora, che quelli che hanno costruito l'Europa sono stati votati. Si faccia uno Stato europeo, si voti un primo ministro, un presidente, qualcosa, si dia una struttura, si voti un ministro degli esi, si faccia questo. Ma dimmi la verità, Berlusconi ti ha chiamato o no? Si dimmi la verità. A me no, guarda, a me no. Presumo che qualche chiamata l'abbia fatta. A chi? Presumo. A chi l'ha fatta sta chiamata? Non lo so, a me no. Ripeto. Ma sarebbe me, il benvenuto Tassani, lì? Danilo non mi ha chiamato, non né Berlusconi, nessuno. Ma lo sanno, sono ignorante, sono contadino, lo sanno. Ma non è quello, ma non c'è. Ma adesso niente, che succede? Sì. Che fate? Un'altra manifestazione? Che fate? No, adesso sono arrivati altri 20 presidi in tutta Italia, quindi. Altri 20 ricordo, presidi, un'altra volta, i presidi? Guardate che forse non vi rendete conto, ma questa situazione non si ferma più. Voi non vi rendete conto, ma non si ferma più. Ma avete portato solo 3.000 persone, Galvani, è poco, troppo veramente poco. Erano 7.000, ma noi non abbiamo portato, sono voi da sole, non siamo un partito sindacato che paghiamo quei soldi e quello è vero. Vabbè, e dopo vero. Questi presidi che succede? Ragazzi miei. E dopo Galvani, dopo questi presidi che succede? Fate i presidi Natale, Capodanno. Noi dopo i presidi faremo la nostra evoluzione. Tutti insieme prenderemo una decisione tutti comune insieme. Senza chiave gato. Guardi che ieri hanno parlato tutti i coordinatori delle città, o non l'avete notato? Forse questo. Ma chiave gato, che c'ha di, qual è il difetto di chiave gato? Ma guardi, è scorretto parlare di chi non c'è, ed io non parlo di chi non c'è, è giusto che qualche battuta l'ho fatta con chiave gato, ma lui era presente e se me la difende. Io non parlo quando non è di fe, perché. Ma il tuo statista ideale chi è? Il tuo statista? Per esempio Putin ti piace? Putin è russo, mica italiano. E vabbè, un modello ce l'avrai, no? Putin, ti piace o no? Beh, diciamo che ho avuto molta ammirazione per Mandela. Per Mandela, Mandela è morto. Mandela, no, vivente sto dicendo. Putin, ti piace? Vabbè, è morto l'altro ieri. Sì, ma Putin ti piace come personaggio? No, non conosco bene Putin, non ho un punto di riferimento su Putin, cioè non no, lo ma sono curioso, bene. Uno che vuole comunque, non dico governare, mi piaceva anche Chavez. Chavez ti piaceva? Chavez. Sì, mi piaceva perché secondo me che c'era nazionalista, no? Nazionalista con due palle così. Però nazionalista ma del popolo, cioè non quel nazionalismo esaltato, un po' come Mandela. A te ecco, ti piace però una cosa? Ti piace piace un l'uomo forte, ti piace un po', Danilo? Dai, dimmi la verità, l'uomo forte. No, mi piace l'uomo deciso, fermo e, sì, che non è un voltacabana. Questo sì. Se per forte intendete questo, sì, se per forte intendete dittatore e prepotente, no. No, vabbè, poi l'uomo forte, cioè l'uomo che quello che con un uomo al comando ti piace, un uomo con carisma al comando. Un uomo con carisma è una cosa, un uomo al comando e che diciamo possa togliere o limitare la libertà. No, vabbè, quello no. No, perché è meglio essere chiaro. Però secondo te in Italia c'è bisogno secondo te in Italia di un passaggio così per un uomo forte, che limiti qualche libertà? No, in Italia ha bisogno di uomini con le palle, onesti, che rispettino la legalità, che faccia rispettare la nostra Costituzione. E questo non c'è dubbio. Uomini e donne con le palle, ovviamente. Quando sì, dico uomini, non. Scusi, ma se ci fosse il papato al posto del governo italiano, funzionerebbe meglio? Guarda, la storia? Io sto a Latina, prima dell'Unione d'Italia, qua siamo il papato. Quindi se oggi in Italia comandasse il Vaticano, le cose andrebbero meglio, secondo te? Questo non lo so. Io sicuramente, avendo un credo così forte, insomma, potrei trovarmi a mio agio, insomma, i suoi valori sicuro al 100%. Per quanto riguarda un governo di Papa, non dubbi, insomma, una volta era re il Papa. Se vedi, scusa, se Danilo, Papa condivide però Danilo, gli slogan se vedi due uomini che si baciano per strada, che effetto ti fa? Cazzi loro. Me frega me. Io bacio le donne, rispetto, perché io ho amici gay, hai visto a fianco a me? Quello sempre, quello sempre. Non ci sono mica problemi. Quello, figure. No. Però il matrimonio però, il matrimonio no. Il matrimonio gay no. Io mi sposo un maschio, io mi sposo una femmina. I maschi sposo, i matrimoni gay si fanno tra di loro, tra femmine e tra maschi. No, certo, d'accordo, ma tu li vorresti in Italia come istituto il matrimonio gay? Sei favorevole o al contrario? Guarda, io non sono contrario a nulla, ognuno vive la propria vita con la libertà, non è questo il problema dell'Italia. Sì. Cioè l'Italia non sta in crisi perché c'è un matrimonio. Vabbè, ma certo, che c'entra, certo. E Renzi, che ne pensi? Che ne pensi di Renzi? Renzi, che ne pensi? Dei diversi. Renzi. Ah, Renzi. E Renzi ha detto che è nuovo. Ha detto andando che rottamava tutto, che cacci via quella classe politica che c'era, azzeri subito questo Parlamento, va a votare pure lui, no? Li ritira, che fa quello che dice lui, Grillo, dicono queste cose che vanno, anzi pure Berlusconi ha detto sono illegittimi, azzeriamo, via, rottamare, l'ha detto lui, mica io, che lo faccia. Ciao. Senti, ma io mica so di... Ciao, ma caro. Andrai a Torino dai pubblici ministeri? Ah no, non c'è andato perché non c'è una lira. Ma ci andrai? Non è che è un buon come problema. No, domani, c'è un appuntamento per domani. Hai trovato i soldi? Ah, vai, domani. Hai trovato i soldi? No, domani alle 3 sono a Torino. No, guarda che il procuratore mia, la convocazione era per ieri, per ovvi motivi non ci volevo andare, lui gentilmente... Ma scusa, tutto è falso quello che si legge, tu non sei andato perché sono indigente, non ho... No, io non ci non sono ho i soldi per ieri. Pagare il viaggio, così se hai no, detto... No, io non ci sono andato ieri. Non ci sono andato ieri perché ieri era la cosa e il procuratore me l'ha spostata e domani ci vado. No, ma c'è la convocazione, era per ieri, potevo andarci ieri. Allora, due punti: non posso venire a Torino, non ho i soldi per pagare il viaggio. Falso anche sì, questo. Ho chiesto pure che mi danno una mano e no, è vero. Cioè, che no. Ti pagano il biglietto. Avevo detto spostate la Latina, se era possibile, invece il procuratore ha detto no, ci pensiamo noi. Però ha ragione da questo punto di vista: non è che se uno lo convocano a Torino, se uno non c'ha un euro per andare a Torino, non è che può andare a Torino. Tu non ti pagano, aspetta un attimo, quindi ti pagano il biglietto della procura di Torino, ti paga il biglietto del treno. No, è previsto per legge, te lo rimborsano. Bene. Ciao bene. Galvani, a presto, ciao. Bene. Ciao. Oh, dove andiamo? Davide da Trani, buonasera. Buonasera. Dimmi. Ho aspettato 45 minuti, devo dire tre cose, le devo dire bene. Dimmi. Allora, la prima, il momento dei Forconi è nato, ha fatto un gran casino, c'era quella forza popolare, anzi nazionale popolare, appena è entrato in scena Calvani tutti quanti sono ritirati dalle case perché hanno capito la presa in giro. Quando hanno visto Calvani girare con la Jaguar, non so, non gliel'avete chiesto? Ma gliel'abbiamo già chiesto, già risolta la vicenda. Vabbè, se ne andava in giro con la Jaguar, insomma, già là si è capito la presa in giro. Poi parlando di Papa Francesco, cercando nella chiesa un po' l'affido per il momento dei Forconi, si è capito che ormai anche il momento del Forconi è destinato a chiudere. Allora... A chiudere, sì, ma è la colpa di Calvani, volevo dire questo. La seconda cosa, prima avete fatto una parentesi sul caso della giustizia in Italia, sul criminale. In poche ore sono andati fuori dal carcere due criminali incalliti, uno un serial killer e l'altro un camorrista, vi dico solo questo. Pluriassassini, vergogna. Di cosa ci stupiamo noi? Se in Italia noi abbiamo intitolato una stanza della Camera o del Senato, no? Questo non c'entra un cazzo, questo non c'entra. Carlo Giuliani, che è un criminale. Ma è un criminale, è morto, dai, su, è un criminale. Uno che ma... il pintone contro il poliziotto e poi intoniamo. Ah sì, ma va bene, per carità, ma lo sa come la penso su questo, che non bisognava intestare nulla alla Camera dei Deputati, figuriamoci un po'. Il paese di Pulcinella, il paese di Pulcinella, la terza cosa, che è la più importante, sì. Devo fare gli auguri al mio amico che si è laureato oggi, Claudio Scocimaro, che ha preso 110. Ma chi se ne frega di idee di Scocimaro, mandasse a fare in culo Scocimaro. Ma perché, poveretto? Francesca, provincia di Forlì. Perché, ma che me ne frega di Scocimaro? Ma mica il Radio Sgurgola Marsicana con tutto il rispetto per questa cosa di fargli auguri. Ma che bello. Ma vai a radio Zebubù, Francesca, dai. Pronto, sono qua. Dimmi, cara. Dunque, io telefonavo, non voglio parlare di Forconi. No, per carità, anche noi oggi abbiamo dato... Sono gonfie proprio, sì. Come si dice qui in Romagna. Gonfia, sì, noi gli uomini sono gonfi, le donne sì, è un po' diverso. Però... No, telefonavo perché voi giorni fa avete fatto un appello per la Laura Tangherlini di Rai News. Beh, sì, assolutamente, la signora sì, Tangherlini. Una battaglia. Non sapevo nulla di questa storia, sono andata subito in internet a vedere... Vabbè, ha trovato ormai questo video cult della signora Tangherlini di Rai News 24, la quale... A un certo punto ha detto: mi sono rotta di coglioni, non so se rimango qui. Vogliamo far risentire la signora Tangherlini? Sì, se c'è, adesso sì. Fra poco la facciamo risentire. Allora, Francesca, cosa vuole? Niente, volevo che rinnovate l'appello perché io ho detto appunto che lei è stata sospesa. Vabbè, è stata sospesa, però devo dire la verità: il direttore di La News 24 ha deciso di sospendere la signora Tangherlini. E vabbè, poi adesso tornerai in video, non è un dramma, però noi la vogliamo libera. Noi la vogliamo libera, perché in fin dei conti cosa ha fatto? Si è sbagliato un po' con gli audio, le cose, il microfono spento. Ha commentato fuori onda? Commentato un fuori onda con piuttosto greve, insomma, no? Beh, fuori onda mica l'ha detto. Vabbè, ho capito. Ma perché non può dire... Dunque, Francesca, cosa vuole lei? No, semplicemente siccome io sono un ascoltatore, cioè guardo spesso Rai News. Sì. E allora, e tra l'altro mi piace molto quella ragazza, allora volevo... Lei rivuole la Tangherlini, rivuole la Tangherlini in onda. Finché il caso non si chiude, è tutto qua. Va bene, Tangherlini, Tangherlini, libera. Torniamo subito dopo in diretta su Rai News 24 con gli aggiornamenti delle notizie, restate con noi. Restateci voi perché io me ne vado, può essere, mi sono rotta il cazzo. La zanzara capricciosa, la zanzara. A grande richiesta qui alla Zanzara, Antonio Pennacchi su Berlusconi. L'unica azienda che ha sanato sono le sue e basta. Ma ti dispiace un po' che uscì dal Senato Berlusconi? Dimmi la verità. No, secondo me mi dispiace, ancora non l'hanno messo dentro perché non può andare dentro per limiti di età. Ma Benedetti, allora è andato, mandatelo dove pare, però basta. Ma vaffanculo a te, Beppe Berlusconi. Una sera i giudici non vogliono che vada al vertice del Partito Popolare, non gli danno permesso di andare fuori. Ma chi se ne frega? Ma senti a me, ma secondo te, ma secondo te in America a Nixon, dopo che l'hanno scoperto, gli danno la presidenza di che? La presidenza di sto cazzo gli davano, no, abbi pazienza. Buio a me non piace. Fammi parlare. È il capo dell'opposizione. E chi se ne frega? E mo perché sei il capo dell'opposizione, tu puoi parcheggiare sempre in sosta vietata. Poi arriva il vigile e ti fa... No, fammi finire. Poi arriva il vigile e ti fa la multa. Dici no, vaffanculo, il vigile è comunista. Ma vaffanculo, questa è una vita. Che parcheggiato cazzo gli appare a lui. In mezzo alla strada, sopra il marciapiede, dentro casa dell'altro. Poi arriva il vigile e dice, è il vigile è comunista. Ma vaffanculo, e paga le multe. Oppure parcheggiato... L'hai fatto? Hai parcheggiato male? Ma paghi la multa e non rompi più coglioni. Avrà punto anche te. Non ti abbiamo chiesto un commento io su Dudu. Per parlare del mio su libro. Dudu. Non ti abbiamo chiesto. Ma vaffanculo a te, Dudu, per piacere, no? Non ti abbiamo chiesto un commento. Io a casa mia c'ho avuto i cani, ma sono cani grossi, no? Non che io, ma vaffanculo a te, Dudu, no, per piacere. No, che c'ha? Zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara... Grillo è un altro stronzo come te. Perché tanto cominciasse a restituire pure lui. Cosa? Tutti quelli che ha guadagnato. E che perché deve restituire? Su questo fa lo stramiliardario, speculando sulla povera gente. Poi gli dici, famo questo, non lo voglio fare, andatevene tutti. E poi lo fate. Il governo col PD non l'ha voluto fare. Dai soldi. Mo' la riforma elettorale... Renzi, dai soldi. Renzi, eccoli qua. Già Renzi l'ha messo sul tappeto. Mo lo vuoi fare la riforma elettorale? Vabbè, ma è che... No! Allora vai a fare il culo, sei un buffone, peggio del Grillo pure tu. Questo è Pennacchi su Grillo. Senti contro squizzi, presidente di Confindustria, no. Il nostro datore di lavoro. Beh, sì, ma sì, non sì. Mi ricordo, ho detto qualcosa. Sì, siccome. Mi sono distratto. Che il presidente di Confindustria intanto gli dicesse ai suoi di pagare i contributi, di non evadere il fisco, eccetera. Che quando vadi, chiedi, digli a Squinzi che andasse a controllare che nell'edilizia però non si lavori più in nero. Controllasse che sui cantieri stesse tutto a posto, non c'è fosse il lavoro nero, eccetera. Non è che può andare nei cantieri lui a controllare se c'è lavoro nero. Però tu non puoi venire a rompere i coglioni al prossimo, se tu sei il primo che contravverte le regole. Perché qui diamo sempre la colpa ai politici. Sì, i politici hanno un sacco di guai, però tanti ce n'ha anche tutto il resto. Forse una volta. E poi, caro Pennacchi, sei sempre numero uno, per carità. Però questa rivalutazione del fascismo non ci voleva. Il fascismo modernizzò il paese. Ma era il fascismo, Pennacchi! Negli anni 30 siamo riusciti a diventare un paese poverissimo, un paese industriale. Ma c'era esatto. Il fascismo, e poi quello si è rovinato tutto con le guerre. Ma negli anni 50 e 60 venivamo dal. Venivamo... Ma c'era il fascismo. Quello però. Quelli modernizzarono il paese. Poi il Parlamento non contava nulla. Ma c'era la dittatura. Studia un po'. Sì, però fecero le bonifiche e l'industrializzazione del paese. Certo, e lo stato sociale. Tante fatte apologie di fascismo. Che vergogna. Negli anni 30 sì, si sono fatte anche cose positive. Vergogna. Ma che cose positive c'erano? Poi si sono fatte anche quelle negative. È giunta l'ora. Ah, Luciano Nicolò della Zanzara, questo è il peggiore. Così stringo il mio orsetto, restare al buio. Aspetta. Deve tornare da noi. Chi è? È il ministro, no? Ministro? Andiamo un po', il ministro. Oh, ministro Cancellieri, buonasera. Buonasera. Oddio, buonasera, Luciano. Come va? Come va? Sento la voce un po' bassa. Senta, scusa, perché c'ho fretta. Lo so, c'ho fretta, stanno scappando tutti. Poi lei c'ha fretta, però. Non facciamo è cambiato il numero di cellulare. Stanno scappando due dal carcere, sono scappati due dal carcere, stanno scappando tutti dal carcere. Lo sapevo, Luciano. È la solita campagna denigratoria di una certa stampa grillina. Ma non c'entra niente la scala della stampa grillina. Guardi, non è successo assolutamente nulla di scandaloso. Questo permesso di cui si parla gli è stato concesso per buona condotta. Se si è comportato bene, non vedo perché non debba uscire, insomma, mi sembra così logico. E via. Ma come non si è comportato? Era un serial killer uno, un altro era un camorrista. Ministro, ci dica qualcosa per assicurarci. Guardi, Cruciani, io vorrei si vedessero certi altri aspetti che lei non tiene in minima considerazione. Per esempio, sì. Bartolomeo Gagliano legge testi sacri e libri di filosofia. Quindi ma chi se ne frega? È un serial killer. Un animo nobile. Ma sarà un animo nobile, ma è un assassino matricolato. È un pericoloso serial killer in libertà. Guardi, a maggior ragione, io apprezzo il fatto che non faccia distinzioni di classe. Piuttosto che sequestrare un uomo ricco, si è rivolto a un rispettabilissimo panettiere, rappresentante di una classe sociale inferiore. Ma che c'entra? Comunque, lei non ci dà rassicurazioni sul fatto che queste cose non succederanno. Un'altra cosa. Mi dica. Tengo a sottolineare che per il passaggio da Savona a Genova ha anche scelto un mezzo piuttosto economico, una modestissima panda in tempi di crisi. Ma non è che l'ha scelta, si è trovato lì. Ma si è trovato col panettiere, gli ha puntato la pistola alla tempia, ministro. Cioè, ma di che stiamo parlando? È stata un'evasione. Bella e buona, amico. Ma ci dà assicurazioni sul fatto che queste cose non succederanno più? Guardi, Luciano, dico solo una cosa: si è detto pure che il direttore del calcio non sapeva assolutamente che Gagliano fosse un pure omicida. Certo. Bello mio, mica può sapere vita, morte e miracoli di tutti i carcerati. Abbia pazienza, tutti no. Poi doveva finire pure delle parole crociate che aveva in sospeso da tempo. Ma comunque, guardi, non si preoccupi, faremo un'indagine. Vabbè, indagine, le solite cose, le solite indagini, va bene. Assolutamente sì. Adesso c'è il decreto su svuota carceri, devo pensare piuttosto quello. Ma la Roma come va, la Roma? A Roma? A Roma ci hanno fregato troppi punti, troppi rigori, questi arbitri. Ma dovevate vincere, sono un po' connuti, diciamo. Ma ministro, sì, non ci stanno quei punti di svantaggio rispetto alle zifre, diciamo così. Ma si contenga, dai, si contenga, ministro. De Rossi, quel ragazzo mi attizza sempre. Ma lei sta sempre con la canzoncina lì sulla bocca, poi lei. Vabbè, che vuol dire Roma? Però lei ha detto un giorno mi invita mai. Ma non è andata da Milan l'altro giorno? Senta che ha detto da Milan, una vergogna, ha detto sì, una telefonata, è andata da Milan l'altro giorno, ma se lo ricordo. Sì, certo. Aspetti, le faccio sentire. Pure lei, e mica bisogna aspettare. Lo so, ho capito, adesso la inviterò, però senta un attimo che ha detto da Milan l'altro giorno, senta. C'è stata forse un'imprudenza, può essere stata un'imprudenza, perché ho preferito, come ministro forse non dovrebbe lasciarsi andare a sentimenti, ma e comunque non c'era nulla di nulla di illecito, se non che l'espressione di solidarietà a una persona che tra l'altro è una persona un compagno di una persona che si caccia, una persona. Ma così si è giustificata ancora un'imprudenza sulla storia della Grecia? Ieri mattina sono riuscita pure male perché c'avevo questo vocione, ma ha telefonato alle 4 di mattina, mi dice, io c'avevo questo vocione che parlava in questo modo, che non è manco pure molto estetico, voglio dire. No, una voce un po' bassa, sì. Ecco, c'avevo una voce un po' più bassa, io sono più femminile se per quello, ecco. Sì, dice. Ecco, lei mi deve scusare. Non si vede tantissimo, femminilità non è il suo forte, diciamo, non è il suo punto. Ma di che sta a parlare? Scusi Luciani. Vabbè, ma non c'aveva poco tempo lei, andò a lavorare. Io alle 4 di mattina c'ho la voce bassa, lei se ma no, ma non doveva andare a lavorare. C'è la mattina presto quando si sveglia. Vabbè. Mi perdoni, scusi, c'ho una telefonata, Grazie. Pronto? Sempre così sto ministro. Vabbè. Antonio da Siracusa. Buonasera. Pronto, ciao, mi senti? Ti sento, dimmi. Ciao, senti, Luciano, io sono un po' di acqua. Prima di tutto ti faccio commenti e vado dalla missione. Vai. E mi devo dare tanto apparenza là. Ciao, ascolta, in pratica io sono un poco arrabbiato, sai perché? Per tutto quello che è successo lì a Lampedusa, no? Sei arrabbiato per Lampedusa? Vabbè, non è una novità questa qua, no? Sono arrabbiato per la comunità europea, perché dico, no, ora ci tolgono tutti i soldi, non mandano più soldi. Ma questi sono dei pazzi. Sai cos'è? Questi sono dei pazzi. Invece di parlare dall'alto, dal bucchiere... Sì? Oh, Gianluca, eccoci qui. Scusi? Come va? Sono Cruciani. Hai sbagliato il numero. E fate il numero giusto, cazzo, dai, Antonio, su. Antonio, allora? Pronto? Dimmi, allora? Allora ti stavo dicendo, invece di parlare dall'alto, ma perché non vengono a vedere là sotto cosa succede? Vabbè, ma verranno pure ogni tanto, dai, ma ti spiego, ma tu pensi, secondo quello che mi fa incazzare, ma tu pensi che gestire tante persone e lì avvengono 1.000-1.500 sbarchi al giorno di sta gente qua, non è facile. Eccomi. Capito? Eccoci qua, Gianluca. Eccoci. Sì. Parenzo è incazzato per quello che hai detto alla camera oggi. Perché? È incazzato perché sei stato, perché ho sentito il nastro, la registrazione. Sì. E addirittura hai parlato, non è una spa, hai usato una spa, forse deve essere una spa, forse no, ma adesso no. Delle cose vergognose rispetto a quella umanità che c'è lì dentro, ma ha detto delle cose guarda che io ci sono stato in quel centro più volte. L'umanità c'è. La questione è che non si può pensare di avere un centro del benessere lì dentro. Quando ti arrivano centinaia di persone e tu hai l'emergenza, ad esempio, della scabbia, non è che puoi dire a tutti ci facciamo il massaggio e mettiamo la cremina a tutti, uno alla volta, ce ne sono 500. Ma stai aggravando... Ma chi parla di queste cose qua? Perché non ho visto niente. Stai aggravando la situazione. Ma come bisogna trattarli? Parenzo, come bisogna trattarli? Stai aggravando. Prego, venite, aspettate un attimo. Sono esseri umani. Certo, ma tu la scabbia, ma tu i pidocchi li hai mai avuti? Tu i pidocchi? Come? I pidocchi li hai mai avuti? No, non li hai all'asilo. Ne conosco uno però di pidocchio. Manco un leghista con i pidocchi. Cioè tu quando andavi all'asilo lì. Io sono andato là, ti voglio dire, quando si fa il paragone con il campo manco un pidocchio avevi. Ascolta, un campo di concentramento è una cosa ridicola, perché lì queste persone che arrivano hanno, e lo ribadisco, gli indumenti nuovi e puliti. Ma ti credo? Colazione, aspetta un attimo, pulita, colazione, hanno fatto un viaggio della speranza, poveretti. Poi hanno la tessera telefonica internazionale, quindi telefonano ad altri che hanno i cellulari. Ma telefonano i parenti, al furbo. Massimo. In più gli danno anche le sigarette, queste cose non ce l'hanno. Tanti italiani che hanno lavorato una vita non ce l'hanno questi servizi. E allora quando tu devi comunque fare in modo che non abbiano e capire la tubercolosi, lì ci sono medici che stanno lì dal mattino alla sera, 24 ore su 24. Scusi, perché sono stati cacciati questi qua? È un capro espiatorio questo qua che è stato cacciato, il responsabile? Certamente, il direttore io l'ho conosciuto, una persona per bene. E che si è dato da fare in tutti questi anni, così come tutta l'altra gente. Ma che c'è un lì. Protocollo che non ha seguito, perché i politici non sono stati in grado di fare le cose che servono. E quelle che hanno la puzza sotto il naso, come la Boldrini, come il sindaco di Lampedusa, come il presidente della della Repubblica, andassero lì e rimanessero lì un po' a vedere come funziona. Cioè, ma scusa, secondo te quegli idranti, per la, chiamiamola, non la sono idranti, vabbè, insomma, quelle le pompe là, quelle che vengono usate con il medicinale che viene usato per la scabbia, è tutto regolare, all'aperto, così, nudi, eccetera? Non è, intanto non era c'era, ho visto una parete, non erano proprio così all'aperto. Poi ribadisco, ma se ci devi essere delle docce subito, con dei termosifoni, un posto riparato, con una tenda, scusa, sei a Lampedusa, ma casa tua come cazzo ti lavi a casa tua a Varallo? Come ti lavi a Varallo? Tu ti lavi per strada a Varallo, Sesia, con la pompa elidrante? Ma se c'è una lì per strada lì a Varallo, Sesia, vai insieme alla Littizzetto, tu, ma lei dai, che prende milioni di euro con le coppe che fa la pubblicità, ma andate a mettersi con le spalle a pulire anche nelle palle. Ma come ci di si lava a Varallo, Sesia? Aspetta, aspetta, fammi sentire questa cosa. Scusa, che c'entra la Littizzetto? Che la Littizzetto è una che fa la mole sul tempo che fa con i soldi pubblici, prende milioni di euro dalle coppe rosse, le quali sono le stesse coppe rosse che gestiscono anche, hanno gestito fino ad oggi, vero, il centro di Lampedusa, vero. Nessuno ha mai detto niente, quindi la sinistra che critica è quella che comunque fa funzionare. Dunque, dove dovrebbe andare centro la Littizzetto, secondo te? Adesso... La Littizzetto, visto che parla tanto, dovrebbe parlare su che tempo che fa di queste cose, delle coppe rosse, se non era contenta, altrimenti prende, va anche lei a Lampedusa e vede come funziona a far passare a tunisini, maghrebini, eccetera, eccetera, 500 alla volta, si mette lì a pulirli uno alla volta anche lei con le sue manine. Le palle, dorate, hai detto, le palle. Perché così capisce, perché lì cosa devono fare per fare in fretta? La scabbia, una volta che va in giro, sei finito. E gli italiani che lavorano lì cosa fanno? Cioè, dobbiamo importare clandestini, tubercolosi, scabbia, poi cos'è che dobbiamo ancora fare? Scusa, Gianluca, ma la Littizzetto che dovrebbe fare? Dovrebbe incazzarsi con la COP? Perché gestisce... Una che fa sempre la morale, che comunque parla sempre di una parte politica, si dimentica sempre la sinistra, non ha mai detto a Renzi che è stato condannato, vabbè, perché c'è dei per dire, no, si dimentica tutti quelli di sinistra e poi prende i soldi della sinistra con il portafoglio a destra. Ma la cosa prende i soldi che ha fatto una pubblicità? I soldi sono tuoi, cioè dovrebbe andare, ma perché non è legittimo fare una pubblicità? No, per... lui dice siccome fa la pubblicità per la COP, cosa fai l'esegeta di Varallo Sesia? No, l'esegeta fai la pubblicità alle COP, però ad esempio su questa cosa che loro le identificano il campo di concentramento. Adesso, ma che cosa dicono? Io poi non prendo la morale e non accetto oggi la morale da chi ha accettato i gulag per dei decenni. Ma qual gulag? Da oggi, guarda, hai difeso l'indifendibile. Da oggi devi fare, devi farti il bidet in piazza Varallo Sesia. Con la devi andare divinità lì a imparare. Fai il bidet a Varallo Sesia in piazza. Talmente erano aggiustati male che andavano anche a farsi il bagno, questi qua, al mare, come se fossero dei turisti. Ma come andava? Io ho visto cosa mangiavo, ma le cose lì le potevi aggravando mangiare tu, le mangiavo anch'io, perché sono cose di primo ordine. Cioè, tu mi dici, poi in più tu ti mi dici, dico anche questo, dimmi, dico che non facevano neanche le pulizie, perché entrato nelle camerate, ci sono entrato perché sono uomini e donne ovviamente divisi, tutto per terra come fosse, sai, così, tanto c'è qualcuno che pulisce, tutto un soppiano. Cioè, non mi dirai che è un albergo a due stelle, tre stelle? No, io non ti dico che è un albergo, non lo dico questo, è un centro di accoglienza dove ci sono tante emergenze, però neanche tira sulla carta, le bottiglie, tutto per terra. E poi io ho chiesto, ma perché? Ah, ma poi dopo arriva la cooperativa. Cioè, non fanno un cazzo, dici questi qua. Niente, io ho detto, ma fateglielo fare allora, ma prima che spieghiamo, prima che facciamo, ecco, allora per dire... Cioè, vanno a fare il bagno al mare? Anche, vanno a fare il bagno al mare? Sì, c'erano quelli che andavano, scappavano, poi dove c'erano i telefoni a muro, divelti, non c'erano solo più i fili, ma chi le spacca queste cose? E che pago io? E chi le paga queste cose? Cioè, e se hanno la tessera telefonica, telefonano a chi? Scusa, ma quella, ma chi, quella adesso devi controllare anche a chi telefona. Quella disinfestazione. Che arrivano le tessere. Quella quanti disinfestazione, buon anno. Tessera internazionale. La disinfestazione, buon anno, è una cosa giusta per come è stata fatta. Disinfestazione. Ma io ribadisco, nell'emergenza non ci vedo niente di così scandaloso e mi scandalizzo invece di più a sentire il Presidente della Repubblica o la Boldrini, tanto per citare chi fa lo scandalizzato, che fino all'altro ieri il Presidente della Repubblica per gli auguri di Natale si sono fatti il buffet, sono fatti tutto, e fuori dal palazzo del Quirinale c'erano decine di auto blu che tutti si andavano a trovare. Ma che razza di esempio è quello? E poi dopo dicono, ah sì, poi ci sono quelli che stanno aggiustati male, poi ci sono quelli che disastro come vengono il lager, il gulag, il lager. Ma proprio loro Ma allora fai un bel esempio, non fai venire più le auto blu e tutti quelli che si fanno comunella uno con l'altro, ma che cosa rappresentano? Sono quelli che Parenzo, mangiano lì, mangiano vai, lì vai, e poi Parenzo, dopo vai. Non danno un panino all'altro. Ma vai, dico, ma... tipo i forconi sono fuori, le forchette sono dentro il palazzo. Ma va forchette dentro il palazzo. Tu, da, sì. Tu, per quello che hai detto, da domani ti devi sono fare il bidet per strada, di quello ti devi che fare. Ho detto. Così vedi, se non ti umilia, se non è umiliante, dico, fatti il bidet per strada. E poi candida Cruciani a Bergamo Alta. Fatti il bidet per strada. No, tu non puoi essere candidato perché facevi consigliere del PDS a Padova. Quindi guarda. Capogruppo ero capogruppo, no, consigliere, ero capogruppo io. Altro che capogruppo ero. Capogruppo. Ciao Gianluca, ciao. Eugenio, provincia di Monza, veloce, vai. Buonasera. Dimmi. Velocissimo. Allora, signor Parenzo, bambino viziato, curioso. Ne dica di andare a vedere che cosa succedeva nelle caserme fino a 20 anni fa. Che succedeva? Cosa c'entra? Che facevano la doccia gelata, buttavano la camerata, venivano presso le docce, buttavano su il mom. Sa che cos'era il mom? Sì, lo so che cos'è il mom. E poi doccia a temperatura ambiente. Peccato che dove eravamo noi la temperatura esterna era di meno 4. Un altro, Giovanni da Biella, veloce anche lui, 10 secondi. Sono un ex ufficiale degli alpini, 53° corso a Udine. Allora, che succede? La militare alpina, confermo sì. Quanto ho detto, esattamente il signore che mi ha preceduto. Cioè, durante prima. Il militare mai succedevano... Mai nessuno è morto. E a domani, devo chiudere, a domani 18:30, ciao.